Zanzara, parlo con la Zanzara, Radio 24. Ciao, Radio DJ. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro... Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ho letto una bella notizia finalmente, Parenzo. Una bellissima notizia. Cioè la mossa di Draghi di abbassare ulteriormente i tassi della BCE allo 0,05. Ma queste cose lasciale a quello che viene prima di noi, dai. A quello, signor Barisone. Sì, vabbè, signor Barisone viene prima di noi. Milioni di ascoltatori. Sì, ma che milioni di ascoltatori? Ma scherzi, chi al mutuo pagherà poco. Ma lasciale a Barisone queste robe qui, dai, su, che me ne frega a me. Prete al sud, in un paese, in un paese del sud, dopo vi dirò quale. Ha benedetto l'unione di una coppia trans. L'amore, senti con che frasi, sentite popolo della Zanzara, poi vi devo fare un rimprovero, a tutti voi che non vi siete ancora mobilitati bene. L'amore, se puro e sincero, ha come fonte Dio. Capito? Amici omofobi, amici che non volete. Caro Taormina. Questo lo dici tu, caro Taormina. Caro amico Taormina, l'amore, appena condannato. L'amore, se puro e sincero, ha come fonte Dio. All'anagrafe Giuseppe, un meccanico di Roma, indossa la minigonna e i tacchi a spillo, un meccanico di Roma. Come il grande amore della sua vita, Marianna. Insomma, un prete li ha benedetti con questa frase eccezionale. Poi mi ha colpito una cosa che mi hanno raccontato. De Crescenzo, sai cosa dice? Luciano, sono Luciano De Crescenzo. Luciano De Crescenzo, grandissimo. Allora, indovinate a che cosa è riferito? Parla di sesso, ovviamente, no? E dice a un interlocutore, sai cos'è? La fatica è tanta, il piacere dura poco e la posizione è ridicola. Beh, devo dire, ammetti che è eccezionale. La fatica è tanta. Poi detto in napoletano, come dice De Crescenzo, la fatica è tanta, il piacere dura poco e la posizione è ridicola. Se ci pensi bene, è vero, è tutto vero. La fatica è tanta, il piacere dura poco e la posizione è ridicola. Non parla di quando... Sì, ho capito. Cioè... Capito? Non pensavo... Super Bauro stamattina! Super Bauro! Ma chi se ne frega dove, come, beh, quando, diciamo perché? Ma chi cose, se ne fotte anche di questo? Fra poco elimineremo anche i riferimenti. A meno che non siano cose clamorose. E l'Occidente, lui dice, insomma, gli sgozzamenti, queste cose qui, figuriamoci, no? È anche colpa nostra, noi portiamo guerra e malattie nel mondo. Noi portiamo guerra e malattie, siamo allora, noi il problema, noi siamo il problema, noi abbiamo fatto la guerra in Iraq, noi non abbiamo fatto la guerra in Iraq, assistito. Come noi assistito, noi abbiamo massacrato i bambini a casa, lei non infangi la memoria dei bambini italiani, vorrei farvi vedere questo filmato, era una missione di pace su richiesta dell'ONU, ma quale missione di pace, se abbassate lo studio magari riesco anche a farvi sentire anche io, le missioni di guerra sono... Allora. Ancora Mauro. siamo qui tutti preoccupati che ci arriva il jihadista a casa, no? Vabbè, ci facciamo delle domande. Benissimo. Perché facciamo ma noi andiamo a casa loro a bombardare, a sparare, a massacrare. Ma questo perché noi abbiamo questa impunità? No, io sono perché d'accordo ci con aspettiamo te, eh? Io sono d'accordo perché con le te, chiamiamo cioè missioni di pace? Senti invece cosa dice il signor Luttuak a proposito. Oh, questo mi infranca. Grandissimo Luca. Secondo te che cosa ha detto Luttuak a proposito, per esempio, sai di quei volontari che alla fine vengono rapiti, no? In Siria ci sono due volontari italiani. Se tu vai in Siria può essere molto pericoloso e capita che ti tagliano gola. No, ancora. Se tu vai in certi paesi, cosa può aver detto Luttuak? Dai, David. Se tu vai in certi paesi ti cerchi la morte, perché sono posti dove si muore. Questo va bene. Vabbè, non sei in forma. Dai, senti Luttuak. Io chiedo sapere, gli americani, i siriani non sono mai venuti a aiutare, non so, un terremoto italiano. Non mi viene neanche in mente di lasciare il loro paese per aiutare gli italiani con un terremoto. Se un italiano vuole lo spirito di aiutare e così via, che vada a Napoli dove c'è questo sindaco che solo chiude strade e non fa niente. Napoli da sola può assorbire tutta la buona volontà che si può generare in Italia. Insomma, se dovete fare volontariato andate a Napoli che c'è bisogno e non andate a infognarvi in Siria. Io credo che chi fa il volontario in tutti questi paesi, in America Latina eccetera, lo faccia più per qualche frustrazione personale. Beh, no, sì, frustrazione nel lavoro, perché non riesce ad affermarsi, per spirito di avventura eccetera. In Italia c'è tanto da fare, ma state in Italia, che cosa andate a fare in Siria, in Afghanistan eccetera? È gente che non, cioè, che gli fa schifo l'Italia, pensa che sia tutta una merda, uno schifo, un paese di cacca, un paese che non funziona eccetera, e dunque vanno là un po' per un atto di egoismo, di estremo egoismo. Riflettevo sulla questione dei Marò. Ma tu lo sai alla fine chi ci ha guadagnato di più? Fino adesso gli unici ad averci guadagnato in questa vicenda dei Marò. Guadagnato in che senso? Guadagnato anche dal punto di vista dei soldi, dal punto di vista monetario, dei quattrini. Allora, innanzitutto gli avvocati che hanno incassato 5 milioni di dollari dallo Stato italiano. Quello sempre, 5 quello. E non hanno risolto una mazza. 5 milioni di dollari. Due categorie, gli avvocati e le famiglie dei pescatori. Le famiglie dei pescatori, 2 anni fa, quando è scoppiata la storia, pochi mesi dopo, hanno incassato 150.000 euro ciascuna. 150.000 euro. Beh, sì, per loro è anche come se avessero preso 20 milioni di euro. D'accordo, c'hanno anche il morto però, eh. Sì, ma cioè, poi tutto sì, passa. D'accordo. Si sono messi a posto per 10 generazioni successive. Io sto con i Marò sempre comunque, sì, ovviamente. Vabbè, ma tu sei però, politicamente corretto, però. No, col corno, col però, cavolo, però dire così, questi comunque hanno perso delle persone. Ho capito, adesso, ma si sono messi a posto per tutta la vita con le generazioni, magari stavano pure sulle palle quei pescatori, quei capi famiglia. Ma questi si sono messi a posto per tutta la vita con 150.000 euro. Hai perso un familiare, ma hai ereditato oppure hai guadagnato. A parte che è stato un atto di generosità che non era collegato alla un po' per oliare, no? Per evitare le cause. E questo civili. Può essere sicuramente. Vabbè, d'accordo. Gli abbiamo dato 150.000 euro a famiglia. Si sono messi a posto per le 10, perché per loro 150.000 euro io li spendo in un anno. Le rupie rispetto alle loro rupie. C'è chi li spende in un giorno in Italia, c'è chi li spende in 2 mesi. Quelli 10 anni, ma di più forse, 10 generazioni. E dai, su, basta, no? 150.000 euro gli abbiamo dato. Siamo qui, 800 24 00 24, la zanzara. C'è una perla di Razzi. A proposito della Corea del Nord, e poi manderemo tutto Razzi dopo, tutto il Razzi superstar in Corea dopo. Però c'è una perlina, dice anche che si mangia bene. Adesso, vabbè, senatore, io l'adoro, le voglio bene, abbiamo pranzato, cenato insieme, queste sagne e fagioli, il pesce, tutto perfetto. Ma non è che tua puoi moglie dire cosa, non tua è moglie? Che, cioè, tua moglie è una persona squisita, cioè, non è che puoi dire che in Corea si mangia bene. Adesso, cioè, in Corea si mangia male, cioè malissimo in Corea. Quello è il problema della Corea, però. Non si è mangia quello. Bene l'italiano. Ma non è il problema come si mangia, cioè, in Corea. Ci devono caspita. Andare in vacanza gli italiani. Sì, in vacanza in Corea, però, non ci voglio andare. Abbi pazienza, non ci voglio andare. Senato, non ci voglio andare. Come si mangia lì? Mangiare tipico, tipo di coreano, è una schifezza. No, tipico coreano è buonissimo. Io sinceramente ho mangiato bene, si mangia come in Cina, si mangia molto il tacchino, i polli, anche la in carne. America si mangia il tacchino. Anche in Francia si mangia bene. Però il mangiare tranquillamente si può andare in vacanza, io penso che anche gli italiani sicuramente ci arriveranno. Ci si può andare, è un'esperienza che io lo consiglio. Io glielo dico d'amico. Allora, andate in Corea e vi divertirete. Ma abbiamo con noi Vittorio Feltri, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Trionfo. Allora io, però mi ha colpito molto una cosa, caro Vittorio. Innanzitutto dovete sapere che Feltri praticamente non fa vacanze. Cioè, io lo invidio moltissimo. Ma come va a Cortina ogni tanto? Sostanzialmente ha passato quest'estate a lavorare, ma non fa vacanze. Odia le vacanze. Diciamo la verità, Vittorio, odi le vacanze. Sì, ma la verità è che io non facendo un cazzo tutto l'anno è perfettamente inutile che vada in vacanza. Ah, tu dici, sono in vacanza tutta da una vita che sto in vacanza. Infatti, dici. Però io ti invidio perché tu non hai questi obblighi di portare la figlia al mare, le cose, come fa Parenzo che è praticamente ormai un figlio dipendente. Cioè, tu pensa che la mia figlia più piccola è già in menopausa, quindi addirittura. Te la devo portare in vacanza. Però anche quando lo facevi anni fa non eri entusiasta di farlo, diciamolo. No, non mi sono mai molto divertito, però l'ho fatto anch'io perché sai. Sì, per forza, però ha un cuore anche lui, capito? Per obbligo. Sì, però Parenzo, tu come ti senti che devi sempre stare appresso a sti ma figli? Io mi diverto, io so, ma è una cosa di... digli qualcosa, Vittorio. Ma io quest'estate con i figli mi sono divertito moltissimo. Poco il ragazzo. Ma che si diverte, ma quando mai? Ma io sì, ma mi posso divertire con i figli. Balle, ma no. Mamma mia, guarda, mi sono divertito perché ho insegnato a mio figlio a gattonare. Sul lungomare di Tel Aviv, bellissimo. Ho insegnato a mio figlio a gattonare, un'emozione stupenda. Godo come un pazzo. Capisco che per voi cinici. Ma non è che cinismo, è che è oggettivamente una rottura di coglione. Poi uno lo deve fare. Uno lo deve fare. Per te è una rottura di coglione, per altri no. Ammetterai il relativismo almeno in questo. È oggettivamente per te, che sei un cuore di pietra. Ma che cuore di pietra? Io adoro mia figlia, ma che c'entra? Insomma, però va bene, ma... Vabbè, sono dalla parte di Cruciani. Ma sì, dai, su. Ragazzi, i gusti non si discutono. Allora, la questione è molto semplice però. La notizia di oggi, secondo me, sono le rivelazioni dell'ex moglie di Hollande, sì, incazzatissima. Ecco. Incazzatissima. Senza denti, bellissimo. Allora, terribile. La sinistra europea è ridotta come è ridotta, anche perché non esiste più, in sostanza. Anche perché... Chi è? Che succede? Che è un cellulare che si è aperto? Chi è? No. Allora, perché Hollande, che è uno dei campioni, dovrebbe essere la sinistra europea, sai come definisce, Vittorio, hai letto i poveracci, cioè i poveri, senza, cioè, denti. I senza denti, gli sdentati, sì. Cioè, tu capisci? Beh, che cioè... però io, insomma, la penso un po' come Hollande, cioè? No, tu sei di destra. I senza denti mi stanno un po' sulle palle. Cioè i poveracci pure te non li sopporti? Sì, cioè preferisco non frequentarli. Preferisci non frequentarli? La povertà. No, ma è molto no su ma questa... i poveri o la povertà? Perché è diverso, cioè, la povertà capisco che è brutta da frequentare. È brutta. Ma i poveri? È brutta, no, però lui è la molto... povertà sì, no, ma è, i poveri. Vabbè, ma la povertà cammina sulle gambe dei poveri, non è che... Però in questa cosa Vittorio è molto onesto, perché dice: io non sono ipocrita come tutti quelli che fanno il buonismo, le cose, eccetera. E a me i poveri non mi piacciono, dice lui. Cioè non mi piace avvicinarmi ai poveri, cioè è una cosa che non sopporto. Cioè, mi tristiscono, sono malinconici. Ma ha ragione, alla fine, quando senti una storia di qualcuno sfigato, di uno che non c'ha, uno gli viene, a qualcuno viene il magone, a me viene la tristezza, cioè mi viene, vabbè, sì, ci sono gli sfigati, va bene, ci sono quelli che... ho capito. È terribile, no? È meglio evitarli. È meglio evitarli. Dai, sì. Traffico, poi torniamo, perché la storia dell'ex moglie di Hollande in realtà fa nascere una considerazione. Ma uno perché deve rischiare di separarsi, di avere due, tre mogli e poi farsi sputtanare in questo modo? Cioè, perché adesso Hollande è finito, il presidente della Francia, finito, morto, perché si è andato a mettere con attricetta là, col motorino. Vittorio. Sì, no, ma il suo errore non è stato... quello di mettersi con l'attricetta, sì. L'attrice, ma quello di mettersi con la moglie, perché se avesse evitato il matrimonio non si sarebbe trovato in queste condizioni. D'accordo. Quindi è da condannare il matrimonio, non le digressioni. Beh, lo dici tu, però, che voglio dire, no? Sei sposato anche tu. Cioè, gli errori li commettiamo tutti, non è che io sia esente da queste cose. Proprio perché anch'io ho commesso degli errori tragici, posso dire in coscienza che è meglio evitare il matrimonio che evitare un amante. Programma, guardi radiofonico, com'è che si chiama La Zanzara? Oh, da chiudere subito, guarda, da chiudere. Ah, c'è un ascoltatore che ci augura la povertà, ma chi se ne frega? Ha ragione. C'è una questione molto semplice, che è quella di cui abbiamo parlato qualche giorno fa io e Vittorio, cioè la questione di Corona. Di Corona. Corona, fotografo, condannato a 13 anni, poi ridotti a 9 per diversi reati, tra cui soprattutto la vicenda Trezeguet, ex giocatore della Juventus, ma anche per possesso di 1.500 euro di banconote false, corruzione di un agente penitenziario per farsi qualche selfie in cella, tentata estorsione fotografica al calciatore Adriano, fuga, evasione, eccetera, eccetera. Ora, Travaglio dice che Napolitano dovrebbe dargli la grazia. Vittorio, sei d'accordo? Vuoi... Sono d'accordissimo, perché è verissimo che Corona, insomma, non vorrei offenderlo, lo dico affettuosamente, è un po' coglione, sì. Però non è un criminale così come è stato dipinto, e soprattutto quei 13 anni di galera sono spropositati per i reati che ha commesso, reati un po', diciamo così, un po' enfatizzati e probabilmente neanche commessi. Per esempio, sì, l'estorsione a Tregasè, insomma, non esiste, anche perché ha fatturato la sua prestazione, sì, le fotografie le ha fatturate. Uno che fa una fattura, come fa a fare un'estorsione? Siamo una follia. Lo stesso Tregasè ha negato di essere stato estorto, quindi, insomma, non vedo perché si debba condannare un personaggio così discutibile, che ha commesso un sacco di sciocchezze, ma condannarlo a 13 anni di galera è uno sproposito, e quindi mi sembra giusto, direi doveroso, chiedere a Napolitano di concedergli la grazia, anche perché ha trascorso 2 o 3 anni in galera in quelle condizioni per dei reati che poi, insomma, e per i quali è stato condannato a delle pene assurde. Sì. Però scusa Vittorio, a parte che la grazia chiesta da Travaglio a Napolitano, il fatto stesso che l'abbia chiesta Travaglio non gliela darà mai la grazia a Napolitano, perché tra i due non corre buon sangue. Non corre poi buon... gliela chiedo anch'io, perché domani esce un mio articolo in cui chiedo a Napolitano di concedere la grazia a Corona. Per cui, figuriamoci, il fatto che Travaglio ed io chiediamo la grazia a Corona significa che Corona starà in galera non solo 13 anni ma forse 26. Scusa, ma secondo te in Corona vi direi grazie, cari direttori, grazie, fattivi i cazzi vostri, però, perché sì, questo è vero, è giustissimo quello che dici, però in coscienza sia Travaglio che io, che siamo due, certo, siamo notoriamente due pazzi, eccetera, però se decidiamo di scrivere un articolo, cioè, non è che lo facciamo così proprio per divertimento, perché crediamo in quello che scriviamo. Però, scusa, dopodiché Napolitano la grazia la concede a chi vuole, per l'amor di Dio, ma lo invitiamo, il Presidente della Repubblica, a fare un piccolo ragionamento su questo uomo che in fondo non ha fatto niente di strano. Allora, tu non c'entri niente, però a me stupisce Travaglio, perché uno è che può essere giustizialista a corrente alternata, cioè vuole in galera un sacco di gente, protesta contro gli indulti, eccetera, dopodiché vuole la grazia parziale per Corona. Amico mio, sei un genio, quello che vuoi, eccetera, però uno non è che per cercare di mettere in difficoltà Napolitano se ne può inventare una su Corona. D'accordo, sarà esagerata la pena ostativa, è quello che è. Scusa, però pazienza, caro amico Cruciani, però tu devi sapere, Giuseppe, che qui siamo di fronte a una condanna a 13 anni, ma se vai a vedere i capi di imputazioni e le cose di imputazione e le cose che ha commesso Corona, non puoi non convenire che si tratta di un'esagerazione fuori da ogni norma, anche, diciamo, un accanimento, cioè condannato perché Corona e non per ma sì, perché Corona ha avuto un comportamento sicuramente censurabile, ha dato fastidio, è stato anche arrogante, tracotante, ne ha fatte di tutti i colori, però i reati in sé sono poca roba. 13 anni, ma stiamo scherzando? Senti una cosa, ma a te è successo qualche volta di comprare delle foto, diciamo, e non pubblicarle? Assolutamente sì. Ho comprato delle fotografie. Da Corona? No, da Corona, cioè da vari fotografi, perché non è che Corona sia l'unico fotografo italiano. I fotografi fanno delle foto che sono anche piccanti, certe volte le portano e dopodiché tu decidi se comprarle o no. E io ne ho comprate anche per favorire qualche amico, e un paio di volte le ho comprate anche per favorire me stesso, nel senso che nelle fotografie c'ero io, e siccome non avevo voglia di fare una brutta figura con mia moglie o con i miei familiari, me le sono comprate pagandole. Ma che foto erano? Foto compromettenti? Foto con delle signore, magari le baciavo, le toccavo. Ma qualche amico, cioè, si può non hai mai toccato una signora? Scusa, Parenzo, okay. Tutti tocchiamo delle signore. Ma adesso tutti. Poi, se sei fotografato nell'atto di toccare, per esempio, non so, una parte del corpo, possiamo dire il sedere a una signora, cioè tu non hai piacere che questa foto venga pubblicata da Novella 2000. Quindi la acquisti, paghi anche 2,000 o 3,000 euro o no? Quante foto hai comprato tu? Adesso non ricordo esattamente, ma 2 o 3 foto le ho comprate. Amici, per evitare delle grane, sai, poi la moglie si incazza, i figli che rimangono. Sono cose normali. Ma è normalissimo. Non è estorsione. Il fotografo mi mostra le foto, io le compro e se le compro io non finiscono su Novella 2000. Va tutto benissimo, direttore, ti apprezzo per questa confessione che ci fai. Ma non ditemi che è normale, io non è che passo le serata a mettere le mani sul sedere alle signore, però. Il sedere una signora, ma soprattutto, i fotografi manco te seguono, questo ma è il meno punto. Male che ti devo dire, ma non è vero, perché ad esempio quest'estate ero a Ponzal, sono andato a fare una gita in barca. Non hai messo il culo e le mani sul culo a nessuno, perché non sei ho capito, ero in barca con la signora D'Urso e altri amici, mi hanno fotografato e non c'è nessun problema. Ma hanno fotografato la D'Urso innanzitutto, però comunque Vittorio, ma scusa, gli amici che hai protetto prendendo quelle foto chi sono? Non si possono fare nomi, ovviamente. Sarebbe anche scorretto se lo dicessi, perché. Ma che è successo? Tu le hai comprate allora e poi. Non si capisce perché non li devo proteggere. No, certo, oggi. Tu le hai comprate e poi che è successo? Hai chiamato questi amici? Ti sei fatto dare i soldi? Li ho chiamati, ho detto: guarda, ho comprato queste foto nelle quali siete ritratti in atteggiamenti inequivocabili, e per cui adesso, per cortesia, io ve le rimando, magari me le pagate, perché io non posso addossare al bilancio del mio giornale delle operazioni di salvataggio. Mezzo ricatto, però, eh. No, che ricatto? Cazzo dici ricatto? Cioè, che ricatto? Ma che ricatto? In questo caso c'era la sentenza. Io ho salvato la chiappa e tu mi dici che ho fatto il ricatto, ma figurati. Io mi sentirei ricattato se uno mi dicesse, non ho nulla da temere, ma voglio dire, mi dicessero: ti ho fatto una foto un po'. Ma i soldi te l'hanno ridato? Ma le ho fatte io la foto, Parenzo, ma che cazzo dici? No, non tu, loro ti ricattano, mica tu, figurati. No, non ricattano niente, mi danno una foto che l'hanno fatta pubblicamente. Ma i soldi te l'hanno dati o no? Alla fine, te l'hanno ridati o no la maggior? Cosa, le foto? I soldi. Certo che mi ha ridato, scusa, se tu blocchi una fotografia in cui io sono ritratto mentre bacio una signora, è chiaro che sono ben felice di pagarti quelle fotografie, perché mi eviti una figuraccia o no. Ho capito. Non c'è problema, ma sono cose che hanno fatto tutti. Adesso sembra che stiamo parlando. No, ma infatti adesso tra un quarto d'ora però chiudiamo questo discorso qui, perché è importante. Parenzo, che ricatto per ricatto? Che c'entra il ricatto? Due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora, voglio fare un appello al popolo della Zanzara, ragazzi, però dovete svegliarvi qui, eh. So che siete un grandissimo popolo, continuamente in espansione, ma Milan la mattina ha dato un colpo basso. Ha fatto un appello via radio, cosa che io non avrei fatto, lo dico subito, non avrei fatto, però alla guerra come alla guerra. occhio per occhio, dente per dente, dei concorsi, dei voti, non me ne frega di solito nulla, cioè mi fa piacere ricevere ovviamente i premi, ma ci fa piacere ricevere i premi, però poi alla fine non ne facciamo un dramma. Allora, se siete veramente con noi, e siete con noi, e siete con noi, dovete fare una cosa molto semplice, molto semplice. Tutti quanti avete un computer lì, una roba, andate su cuffiedoro.it, cuffie... Così impara Milan, così impara, cuffiedoro.it. Andate sulla scelta del mio conduttore preferito, il programma preferito e fate il sottoscritto, mettete una bella X, bisogna solamente premere un bottone e poi la zanzara su un altro voto. Poi che siamo al 7, all'8, al 10% rispetto alla massa, però è questione di centinaia di voti. Milan, ma quando ce prendi a noi? Dai, non su. Non siete seri per niente. Cuffiedoro.it, premiazione 20, premiazione 20 settembre a Trieste. Capito? Capito Milan che ha fatto? No, ha fatto l'appello alla radio. Pensa che noi siamo lì a pettinare le bambole. Siamo qui a pettinare le bambole, caro amico mio. No! Alla guerra come alla guerra. Vabbè. Devi sapere che in ufficio, caro Parenzo, è andato via Vittorione. No, no, no, aspetta, adesso torna. Ah. Allora, devi sapere che in ufficio moltissime persone ascoltano la zanzara, no? E sul gruppo, sul mitico gruppo Riccardo da Roma Fans Club, che tu hai più volte detto essere degli scansafatiche, se non sbaglio, giusto? Beh, sì, per di giorno ho detto. Ma forse, che per di giorno? Per di giorno, uno che ma fa qual? Un club, ma un fans perché? Club, per di giorno, dai. Ma perché? Che male un c'è? Per non di capito. Giorno. Ma che per ma non c'è nessun male, ma è un per di giorno. Allora, qualcuno si è chiesto, si è fatto questa, ha scritto, le domande della vita in ufficio. Scusa, tu che segui la zanzara, mi dici quanto è durato il matrimonio di Parenzo? Ti giuro, non me lo sono inventato io. Beh, le domande della vita in ufficio. Scusa, tu che segui la zanzara, mi dici quanto è durato il matrimonio di Parenzo? Vedi che ha fatto bene a definire dei per di giorno. Ma che per di giorno? È gente che vuole sapere quello che fa nella vita, è interessata alla tua vita. Ma sono dei per di giorno, bassi, ma pensassero alla loro vita brutta, magra che hanno. Ma perché vita brutta e magra? Ma perché che uno c'hanno? Che si mette, che perde tempo a fare no, un fans club certo, di quel tipo, uno che è un per di giorno. Cuffie, oppure che in quel momento non stava ascoltando e ha chiesto a un altro, scusa, tu che stai seguendo la zanzara, mi dici quanto è durato il matrimonio di Parenzo? E adesso dovresti dare risposta a questo tuo ascoltatore. Ma si facesse i fattacci suoi. Dai una risposta a questo badasse, tuo ascoltatore. Ma non do nessuna risposta, badasse lui alla vita sua magra che ha, scusami, è triste guardare la vita degli altri. Ma è veramente... meglio evitare il matrimonio che evitare un amante. Le massime del signor Feltri. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Mossa anticrisi della BCE, costo del denaro ai minimi storici, bene le borse, cala lo spread, Draghi, flessibilità nell'ambito del patto di stabilità. Sindacati sul piede di guerra per il blocco degli stipendi statali, Serracchiani PD doloroso, ma con gli 80 euro abbiamo voluto favorire una platea più vasta. Più di 60 capi di Stato e di governo in Galles per il vertice NATO, per la crisi ucraina gli Stati Uniti chiedono nuove sanzioni contro Mosca, l'Europa frena. La famiglia di Sotloff, il reporter americano decapitato dai terroristi dell'ISIS, si rivolge in arabo al califfo nero, avete violato i principi dell'Islam. Accordo tra le regioni sulla fecondazione eterologa per colmare il vuoto legislativo, gratuita ma con dei limiti, Chiamparino segnale forte al Parlamento. Sequestro dell'elemosina e multe fino a 500 euro a Padova, la battaglia del sindaco leghista contro i mendicanti, insorgono le associazioni. Stasera Italia-Olanda, debutto nazionale per il nuovo CT Antonio Conte nell'amichevole allo stadio San Nicola di Bari, in attacco coppia inedita Immobile e Zaza. Facciamo l'annuncio intanto. Parenzo ha superato la prova orale. La no, prova non è orale, orale. Beh, non come sai no? Niente. Scritta, sì, scritta, insomma. Sì, la prova scritta è uguale, scritta, orale, quello che. Scritta, insomma, la prova non quella di guida, dell'esame per la patente. Sì, cioè, una cosa clamorosa. Di 40 quiz. Alla beata età di 38 anni. Quanti ne hai sbagliate di quiz? non te lo dicono, perché ti dicono solo quando li sbagli. Ma vi rendete conto, a 38 anni questo ancora non ha preso la patente? A 38 anni questo qui che sta parlando a te non ha ancora preso la patente. L'hai presa? Non mi ricordo, a 19, a 20. No, no, molto dopo. Ma che stai dicendo? Io subito l'ho presa, ma che me ne frega? Io odio la macchina poi, però devo dire che ma ho preso la patente solo regolare. Pannella come non l'ha mai presa. A proposito di Pannella, Mentana, anche lui mi parla. Aspetta un attimo, io voglio capire, non ho capito tu la questione della patente. Quando è che fai il coso? Perché io ti voglio seguire passo dopo passo. Quando è che cominci adesso cioè, farai delle lezioni di guida anche? Beh, certo, adesso da lunedì alle 9. Lorenzo che fa le lezioni di vita. Da lunedì alle 9 faccio lezioni di guida e quindi anzi no, l'appello può essere questo, amici che state magari a Roma, se avete voglia di darmi lezioni di guida e passare un'oretta con me, così mi fate risparmiare i soldi dell'istruttore a scuola guida, perché sono 25 euro a mezz'ora, capito? E allora se avete voglia potete, come dire, venirmi a prendere, possiamo darci un appuntamento a Roma, in una zona di Roma, e mi fate un'oretta di scuola guida e io vi posso allietare. Chi vuole fare lezione di guida a Parenzo? Questo può essere molto utile. Vittorio Feltri no, perché c'ha l'autista, che gli frega. C'ha la patente Feltri. Ma certo che ce l'avrai, non Vittorio, so. Ce l'avrai, sì, no? Cioè... Vittorio! Eccomi. Ma ce l'hai la patente tu, sì? Sì, sì, ce l'ho la patente, non la uso, ma ce l'ho. Ce l'hai? C'è l'autista, che te frega? Cioè, non me frega, ma amor di Dio. No, no. Senti, ma io voglio capire una cosa, chiudiamo questa vicenda delle foto, no? Per sì. Chiudere proprio... Parenzo parla di ricatto, ma di ricatto che no, cosa c'entra? Non, lui, non ho capito, ma cosa non è lui che non no. Ho detto che è lui che ricatta, tutt'altro. Ho detto che chi subisce, se ti arriva un fotografo che ti dice ho fatto queste foto, o le compri o le pubblico, mi pare un ricatto, però voglio dire, no, ma che c'entra? Il fotografo fa il suo mestiere, chi le compra è quello che la fine che fanno queste foto, chi gli frega il fotografo? Basta che c'ha i soldi, no? Basta che prende i soldi. Beh, ma le fa per un giornale, le farà per... No, le foto vanno sul mercato. Che le compri tu, le compri di tua sorella, tua cugina, un giornale o chissà chi, è lo stesso, non c'è ricatto. Le foto sono sul mercato, le compri tu, benissimo, e te le porti a casa. Le compra un giornale, le mette sul giornale. Ma quelli che ti hanno dato i soldi, poi ti hanno fatturato la cosa o no? No. No, le fatture si fanno sempre. Si fanno sempre, cioè il giornale, i giornali che era un settimanale all'epoca, un quotidiano, che cos'era? Sì, un settimanale, no, un fotografo ti fa la fattura. Un libero professionista, dici, c'è cioè uno che lavora sì, un fotografo fa la fattura, la fa a te o la fa al giornale lo stesso, cosa cambia? No, no, voglio dire, poi queste persone che sono amici tuoi, a parte le foto che ti hanno state fatte, queste persone... Beh, meglio amici però, scusa, che ti dicono ti abbiamo fotografato, no, dammi i soldi, ce l'ho nel pubblico. No, non lui, non le ha fatte lui le foto, ma Parenzo, ma sei cretino? No, no, ti ho detto, non capisci niente. Ho detto, se questi fotografi sono degli amici, se poi no, fanno la foto, appunto, non sono amici, sono delle persone. Sono professionisti che si appostano. Ma fanno. No, senza amici, senza che sono fotografi che fanno il loro mestiere. Prima di vendere le fotografie a un giornale, se ti conoscono, vengono da te e ti dicono: guardi, io ho queste fotografie, te li trago, notizio, Cairo, sempre ogni sede, vuole comprare lei. Bene, se no lo vendo qualcun altro. Se tu sei interessato a comprarle per te o per proteggere un amico, eccetera, lo fai, ma non cambia nulla. Come hai fatto tu? Come hai fatto ho fatto tu? Io, ma dov'è il problema? Cioè, non capisco il discorso di Parenzo, non riesco proprio. Ha comprato queste foto, poi ha chiamato gli amici e ha detto: scusa, io l'ho tolto dal mercato vista, queste foto. Fatto però il giornale ha speso dei soldi, ridacce i quattrini almeno. Sì, infatti, questo è il punto. O no? Non c'è ambiguo il tipo di... Ma no, non lui, cioè Feltri ha fatto benissimo. C'erano queste robe che rischiavano di finire sui giornali e mi avrebbero rotto le... Ambiguo. Come c'è di ambiguo? C'è un prodotto sul mercato che lo compro io, lo compri tu, è lo stesso per chi offre la mercanzia, no? Il fotografo che venda a me o venda a te, per lui non cambia il risultato, incassa il suo denaro. Pertanto non capisco dove sia tu eccepisci che cosa? No, io voglio capire una cosa. Che cosa eccepisci? Non ho capito. No, eccepisco il fatto che se uno venisse da me e mi dicesse: guarda, io ti ho fatto queste foto, ma padre, io non ho niente. Io ho fatto delle foto al signor Pinco Pallino. Ecco, e dici: le vuoi comprare? Altrimenti le pubblico. Sono interessato? È chiaro che le pubblica, se no, perché lavora per chi? Della banca degli assini, no, lavora per sé, lui deve riscuotere il suo. Ma compenso. Se questi non avessero dato indietro i soldi, le avresti pubblicate queste foto, no? Ma non io, Cristo, ma non riesco a spiegare. io compro le fotografie, sì, se sono interessato a togliere dal mercato. Ah, per togliere dal mercato. Appunto, sì, beh, certo, per quello lo fa. Le pubblichi oppure non le pubblichi, perché voglio fare un favore a un amico e gli chiedo i soldi per pagare, quello è un altro discorso. È un altro discorso, dai. Non è difficile, io credo che persino Parenzo possa capirlo. Io tanto lo capisco, che però dico che a me sembra un ricatto. Mi sentirei, ma ricatto di chi a chi? Se capitasse, ti sto dicendo, Cruce, se lo vuoi capire bene, se, ma è un mio pensiero. Se capitasse a me che uno mi si avvicinasse e mi dicesse: guarda, ti ho fatto queste, a me ne frega niente. Dico, no, non ti ho fatto, non c'è il contatto tra i due, il fotografo vuole vendere si le foto. Si apposta. Allora, com'è che funziona? Vabbè, il fotografo è troppo tardi. Ma non hai capito? Il fotografo ciao, si apposta. Ciao Vittorio, poi io lo spiego. Ciao Vittorio, a presto. Ciao. Allora, non l'hai capito tu? Pungete. Dice una giusta. Senti sui bronzi, ne hanno viste tante, potrebbero andare anche a Milano. Dopo anche la questione dei bronzi, magari, che vorrebbe portarseli all'Expo di Milano, lei che cosa proporrebbe in alternativa? Tanto io temerei di essere portato io a Milano, poi i bronzi insomma hanno resistito a millenni, quindi possono pure rischiare Milano, insomma. Non sarebbe meglio lasciarli qua? Ma sì, sarebbe meglio lasciarli qua, da un certo punto di vista, ma da tanti altri ce ne sono. Che vuol dire vorrei essere portato io a Milano? Non secondo ho capito. Me non ha capito, eh? Boh. Non vorrei essere portato io a Milano. Non capisci un cazzo. Comunque bisogna abbracciare Marco, non vogliamo essere troppo buonisti, bisogna abbracciare Marco che è malato, che ha un casino, tumori, cose, cioè un abbraccio fortissimo, non lo prendiamo in giro spessissimo, però di fronte alla malattia anzi, uno, deve tornare uno qui. Si ferma, di fronte alla malattia bisogna uno si ferma. Bisogna si invitarlo. Io continuo a dire che bisogna che i bronzi vengano sequestrati e messi su un treno. Devono viaggiare in tutta Italia. Innanzitutto da Milano a Reggio ci vai tu a vedere i bronzi di Iace, le persone vanno a Milano a vedere l'Expo e all'Expo in teoria, poi io odio l'Expo e tutto, uno dovrebbe vedere il meglio dell'Italia a Milano, non è che poi uno prende l'aereo, spende 500, 600, 700 euro per andare a Reggio Calabria dove non ci sono voli, no? Allora, facciamolo questo grande treno che attraversa l'Italia con i bronzi di Iace sopra per farli vedere a tutta Italia, non lasciamoli in mano degli inefficienti, inetti amministratori della regione Calabria. Sgarbi, la Calabria è peggio dell'Andrangheta. Sono prigionieri in Calabria, sono sequestrati, peggio dell'Andrangheta, perché l'Andrangheta cosa fa? Prende pezzi di Stato. La regione Calabria, che non ha niente a che fare con i bronzi che sono dello Stato, cioè di tutti, pretende di avere un diritto su di loro che non ha. Dovrebbero stare al Louvre. Io non capisco perché tutto il mondo non li può vedere, dovrebbero stare al Louvre e anche a Roma, cioè in un luogo dove tutti li possono vedere. Sono in Calabria per caso. Sono fatti in Grecia, sono greci e sono arrivati in Calabria per caso. Se la nave fosse naufragata a Fano sarebbero i bronzi di Fano. Cioè, cosa c'entra la Calabria? Sono del mondo, dell'Italia, e l'Expo realizza questa condizione per cui Milano è anche la Calabria, con tutti i calabresi che ci sono, cioè non si capisce. Ha detto anche che sono arrivati lì per sfiga, in realtà, sfiga, sì. Era meglio se arrivavano da un'altra parte. Oh, leggo oggi, Parenzo. No, però spieghiamo sta roba delle foto. Leggo poi. Oggi, in realtà è di ieri. È di spieghiamo ieri. Sta roba no, delle senti, foto. Basta, però. Andiamo avanti, andiamo perché avanti. Non hai capito il senso andiamo delle cose. Andiamo avanti. No, te la dico solo così. Se tu sei a cena in un ristorante con una delle tue amiche, tu non è Cruce, il tu, e a un certo punto sei là che ti strusci, no? Tu sei un personaggio famoso e pubblico. Si apposta un fotografo, sì, fa queste vabbè, foto. Vabbè. Poi viene da te e ti dice: guarda, io se no le pubblico, altrimenti niente. Te le compri tu e mi dai due, mi dai 3.000 euro, quant'è? Io a casa mia questo lo chiamo ricatto. Non è un ricatto, però, ricatto non è un ricatto. Questo è per se le vuoi comprare tu, oppure le vende un giornale. Sembra uno un può ricatto. Può preferire, ma non è che... Ecco, però siccome si tratta di personaggi pubblici, non è che vanno a fotografare chiunque, senti, perché no? Le devi sempre mettere sul piano della giuridico? Non ti me ho ne spiegato frega cosa nulla penso di questo aspetto qui. Quindi poi Feltri ha fatto. Ti dovrebbe benissimo. Interessare invece un'altra cosa che è uscita ieri sul Corriere della Sera edizione Roma. Senti il titolo, i 59 nomadi ricchi che vivevano nei campi a spese del comune. Un rom aveva in banca 372.000 euro. Altri 5 avevano più di 200.000 euro a testa. Vivevano nei campi a spese del comune. Male. Capito? Malissimo. Hanno chiesto il rinvio a giudizio per truffa e per avere ottenuto certo. indebitamente l'erogazione di fondi sono. Da parte dello Stato. Certo, sono dei criminali. Perché anche gli italiani, cioè questi magari sono italiani, anche quelli che non sono rom lo fanno, fottono i soldi allo Stato. No, no, ma questi rom qui sono dei criminali, questi criminali. E meno male, e meno male. Ma ci mancherebbe. Finti poveri, 59 nomadi certo, finti criminali poveri. Sono, finti certo. poveri. Allora, abbiamo Vincenzo dalla provincia di Milano che dovrebbe raccontarci una cosa, da quello che leggo qui, una cosa che è andata in onda ieri, cioè l'intervento della porno tassista, giusto Vincenzo? Sì, ma ascolta, io ciao. Mi coglie l'obbligo di... Chi sei innanzitutto? Chi sei? Allora, io sono il direttore del Radio Taxi 02696. Oh, benissimo. Eccoci qui, okay. Viva i taxi! Ecco, viva i taxi! Perfetto, viva i taxisti, soprattutto quelli del 6969, beh, ok? Sì, vabbè, quello, tutti, pure gli altri. No. Renzo è un nostro cliente, ci conosce benissimo, mi conosce anche a me. Però il fatto che prenda la patente è da biasimare. Perché spending review, amico mio. Così ve la prendete in quel posto. Non è più potremmo, vostro cliente affezionato. No, potremmo dare un carnet di buoni a Babbo Morto se rinuncia. Beh, io ti voglio bene, amico mio. No, rinuncia alla patente e prendi un carnet a Babbo Morto. Ma un carnet prendi che un ci faccio? Ma mi se, no, un carnet ce ne sono vabbè, soltanto. Non è che ti possono ospitare gratis nei taxi. È amico mio, ho capito. Se sono in crisi. Però ottimo. Ottimo, perché quelli del 6969 sono convenzionati col 3570 di Roma. Bravo, non si possiamo fare 42 radio taxi. Ma non possiamo Italia fare pubblicità in tutte. No, ma ho detto no, questi, no, vabbè, ma è una comunicazione di servizio. Ma che servizio, dai, su Vincenzo, ma che è successo? Questa come Morena. La bufala, Come la bufala di che? Della Morena. Cioè, come la bufala, non è tassista. Ma no, ascolta, te sei un giornalista navigato. Ma infatti ho sentito l'odore della Madonna, Ho sentito l'odore di bufala, scusami Vincenzo. Oh. Ho sentito allora, l'odore questo di tormentone, questo tormentone dura dal mese di aprile. Sì. Ovviamente noi abbiamo smentito, controsmentito, ma noi rispetto a voi siamo dei poveretti, no? Per cui hai voglia a abbaiare alla luna e dire guardate che non è vero, perché ma non è che momento, io rispetto. Sì, io non ho capito. Questa Morena, che cosa diavolo fa nella vita? C'è oltre una foto farà con la un pornostar taxi, e ha pensato bene di circolare. Ascolta, farà la pornostar, di cui io non ho nessuna critica da fare, perché uno certo. fa il lavoro che ritiene opportuno, perché altrimenti dovremmo attaccare anche Rocco Siffredi, che è una cosa. Ah, ma certo, per carità. Lavora e lavora anche in modo intelligente, no? Quindi ognuno fa il proprio lavoro. Il problema suo è che l'ha abbinato al nostro logo. Francamente, la sì. cosa, ripeto, l'autonomia è autonomia. Ma questa si è fatta fotografare col taxi, ma è tutto finto. Si è fatta fotografare col nostro logo, ma è stata molto attenta a dire chi era, chi non era, eccetera, eccetera, ma l'ha fatta anche furbamente, intelligentemente. Ma io non ho capito, o siete d'accordo o siete d'accordo per fare pubblicità no, al 6969? Assolutamente no, assolutamente no. Cioè questa no. qua dice di essere tassista, ma non è tassista. Ma di fatti, guarda, noi la diffida... Cioè, non ha mai portato un taxi? Beh, ma questa è una cosa clamorosa. Morena! Ma, difatti, ma la diffida gliel'abbiamo fatta, ma chiaramente, dimmi, gli fai una diffida, cioè, in fin dei conti, che cos'è che ha fatto di male? Scusa, dice di essere tassista, non è tassista. Ho capito, ma si è inventata una storia, sai, nel blabla mediatico quante storie, piccola, e che sono delle bufale grandiose. La cosa che mi meraviglia però è te e Parenzo, che siete dei giornalisti navigati, due marpioni della Madonna, parliamoci chiaro, no? E allora? E siete, avete abboccato un ma po'. Ma che abboccato, cosa... amico mio, ho fatto ieri la telefonata al 6969, bisogna presentarla in un certo modo, i dubbi mi sono sempre venuti, poi in realtà non avevo letto, perché non è uscito da nessuna parte le vostre smentite, le vostre cose, soprattutto dopo l'intervista a Libero, per cui ho chiamato in diretta il 6969 ed erano francamente un po' imbarazzati. Ma no, era il capoturno non è autorizzato di... Ma dai, pure bastare, ma che siete? Lavoro del Vaticano, non è autorizzato, no, il capoturno del 6969, andiamo su. Ma scusa, noi siamo 1400 taxi, abbi pazienza, noi conosciamo il tassista uno per uno, ma il ragazzo che lavora lì ovviamente non è autorizzato, due ovviamente non sa e non conosce personalmente i tassisti come possiamo farlo noi. Vabbè, no? Ma lo sapevano che questa qua è una truffatrice, scusami. Ma guarda, quando ho fatto l'intervista con Plattinetta Radio DJ, insomma, parliamo chiaro, si capiva lontano un miglio che stava, era titubante, sì, appunto, ma vedremo, ecco, quindi, però al di là di questo, ripeto, io francamente smentisco che ovviamente è della nostra flotta, perché non fa la tassista, ma per un, come dire, per correttezza informativa anche nei confronti dei nostri clienti, no? Perché sennò, vabbè, che gli frega i clienti, c'è una tassista che oggi mi ha chiamato di non so quale servizio che mi ha raccontato in realtà un po' di cose, guarda che questa è tutta un'altra, è tutta una truffa, eccetera eccetera. Ma vabbè, non è una truffa, ma perché, beh, è una truffa, se uno, cioè, si truffa vuol dire andare danni a truffare la gente. Ma senti, faccio un esempio, no? Questa qui ha pensato bene di prendere un taxi e veicolare il suo lavoro in quel modo lì. Certo, noi sappiamo già, siamo ben cosci del fatto che il 026969 si presta un po' ai doppi sensi, ma questo da lì a andare a imbastire una storia così. Ma poi una pratica sessuale vecchia che non fa più nessuno ormai. Era di moda negli anni 70, dai, diciamo la verità. Negli anni 70, negli anni 80. Tu che sei un cacciatore navigato. No, cacciatore è un cazzo. non è quello. È inutile che tiri il sasso e poi è vero o non è vero? Ma senza dubbio, ma ne fa professione, c'ha il patentino. No, ma quale patentino? Ne fai una professione, ma lo dici in continuazione. Ma non è quindi vero, dai. Ma non è che ti poi nasconde e dice: mamma, no. Io faccio tassista da 40 anni, no? Allora, faccio tassista da 40 anni, vi ascolto tutte le sere, sì. Siete molto simpatici. Come tutti i taxi d'Italia, naturalmente, diciamo. Bravo. Ieri sera, quando avete chiamato alla sala radio, ho detto: ma insomma, vabbè, potevano magari trovare un altro sistema per intercettarci, magari. Già ieri sera ma guarda che alcune cose vengono così spontanee, non c'hanno bisogno di molta architettura. Vabbè, Vincenzo, ciao, ti abbraccio, ciao, a presto, ciao. Ciao, buona serata a tutti, ciao. Salvatore, provincia di Latina. Salvatore, dai. Salvatore, sì, dai, dimmi. Niente, volevo intervenire sul bronzo di Riace. Intanto sono d'accordo con Sgarbi, la Regione Calabria o chi la rappresenta non è il proprietario, ma è lo Stato italiano. E poi chi ci va a vedere i bronzi di Riace a Reggio Calabria? Quali sono gli introiti che l'edificio che li ospita, il museo che li ospita, è attivo? È sì, ma non è che, attenzione, non è che Sgarbi ha detto che bisogna portare questi bronzi e lasciarli a Milano, ha detto semplicemente che quando c'è, è come un quadro, no? Spesso il quadro gira in tutto il mondo, quando ci sono le mostre, le personali, come si dice, no? Cioè, gira per tutto. C'è un evento molto importante che si spera sia molto importante, io non ci credo, Ma come no? Milioni di persone, sì. L'Expo, eccetera, uno porta il meglio tra le cose migliori che ci sono in Italia dal punto di vista dell'arte. Questo Sgarbi, quel mestiere, fa l'ambasciatore dell'Expo del mondo, le porta al nord, a Milano. Certo, dov'è? Certo. Uno non è, poi se uno vuole andare oggi a vedere i bronzi, non è che deve andare a Milano, ma a Reggio Calabria, questo è evidente. No, non ha detto una cosa folle. Io ci metto il carico da 90. Siccome gli amministratori dicono di no, e siccome i bronzi non sono dei calabresi o della regione Calabria, intervenga la polizia, i carabinieri, non so chi, li prendano e li portano a Milano. È molto semplice. È scena, va bene. Ma non è scena, però... ma quale scena? È l'unica cosa che bisogna fare in Italia, si chiacchiera troppo e non si fa niente. Cruciani, volevo aggiungere un'altra cosa. La Venere di Morgantina, che lo Stato italiano ha fatto tante polemiche, cause con il Museo Folghetti. Sì. Sa quante persone ci vanno all'anno a vederlo a Morgantina? Io sono siciliano, quindi non sto parlando male della Sicilia. ha forse una decina, comprese le scolarette. Appunto, non è quello che dico. La strada. Cioè, ma è quello che dico io, alcune cose vanno portate dove c'è la gente per vederle. Poi diamo però i soldi. In compenso ci saranno sicuramente 7-8 custodi o bibliotecari, chiaro. Perché fanno voti e in un piccolo centro determinano. Vabbè, poteri. Salvatore, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Ah, ecco noi! If you say that you are mine. Il nuovo nemico di Diego Della Valle, Maurizio Gasparri. Buonasera! Buonasera, vi sentivo parlare dei Bronzi di Riace. Sì, che sì. Succede? Tu c'hai un sacco di voti in Calabria, eh? No, ma lo sapete che su voi non conoscete la storia. Anni fa che ci fu una discussione su. Vediamo che altra cosa riesce. Che altro casino riesce a fare. Reggio Calabria, no, non ho fatto il casino. No, vediamo. Fecero che ora. Un referendum per tenere i Bronzi a Reggio e in una città che ha un sacco di problemi, perché insomma, una città ovviamente non facile, andò a votare, credo, tipo la metà della popolazione, vinse ovviamente il partito del mantenimento dei Bronzi. Quindi Renzi, questa uscita, non fa dei distratti, ma calcolata, perché in per le elezioni, certo, ma sì, l'abbiamo detto, certo. Ah, l'avete detto, non vi sentivo. No, prima. No, ieri l'abbiamo detto, ieri l'abbiamo detto. Ha fatto un'operazione elettorale. No, ma non c'è dubbio. La Reggio Calabria fece addirittura pensare a un referendum e andò a votare tipo il 50% della cittadinanza, che è una percentuale incredibile. Mi dica tutto, che succede? No, vabbè, succede un casino pazzesco. Succede un casino pazzesco perché qui ti vogliono portare al tribunale là della Valle per quello che hai detto su nuovo trasporto viaggiatori, che praticamente stanno fallendo, non bisogna più comprare biglietti. È un equivoco, tutto questo è un equivoco. Perché da dove nasce? No, ma da dove nasce la questione? Io uso Twitter, lo usate anche voi. Ma ti è partito il ditino come altro? A me arrivano un sacco di messaggi molesti, non richiesti, di pubblicità di questo treno e ti bombardano, no? Compra biglietti, offerta, qua là. Ma se non segui se non segui il coso Twitter di Antv. Io non seguo. Ti arriverà un retweet di qualcuno? No, non è vero, lo mandano loro. È una invasione. Infatti, io adesso farò degli atti legali, perché uno viene invaso nella propria corrispondenza. Uno, se segue uno, lo segue, se non vuole seguire, non lo segue. Ti arrivano queste cose all'ennesimo messaggio. Mi sono stufato. Invaso come gli immigrati. Basta. Dico, come quelli che ti telefonano a casa non graditi, che ti mandano, e quindi ho risposto così, perché l'hanno presa seriamente. Beh, presto chiuderete, è scritto presto chiuderete. Ma guardi, ma il problema non è che la risposta era sicuramente troppo forte, però io sapevo da ambienti giornalistici quello che poi è uscito in questi giorni, quindi il problema di NTV, come si chiama, non è che l'ho causato io. Se lei legge Repubblica del 2 settembre, legge che ci sono 156 milioni di euro di perdite in due anni e c'è un debito complessivo di 781 milioni. Roberto Magna di Repubblica scrive che hanno difficoltà anche a pagare gli interessi bancari. Ma lei non dovrebbe gioire se ci sono questi problemi? Io non gioisco. Ma no, ma lei ha detto io ce l'ho qui. Pubblicità non richiesta. Ma no, capito? D'accordo. Perché se ci fanno pubblicità non richiesta, uno si deve tutelare la privacy. Quindi avranno dei problemi giudiziari, perché tra l'altro anche alcune parole dette da Diego Della Valle, si prestano ad azioni giudiziarie. E anche quale parole? Manifesto. Beh, quando dice bisogna cacciare le persone in democrazia. Beh, ha detto che gli elettori dovrebbero cacciare, anzi no, gli altri politici, gli altri politici dovrebbero isolare Gasparri. C'è una specie di fatua, sa come si fa in Isma. Quindi evidentemente c'è un atteggiamento intollerante. Io gli auguro di andare meglio, vanno maluccio, hanno un sacco di debiti, fanno fatica. Io sono per la concorrenza e il libero mercato, ma gli imprenditori devono piazzare sul mercato il prodotto. E se pensano di subire dei torti, c'è in questo paese l'antitrust, adesso abbiamo fatto anche l'autorità per i trasporti, c'è la magistratura, si tutelino se ritengono di aver subito dei torti. Poi le posso dire anche una cosa, non mi sono mai dimenticato di quella polemica, se la ricorda, a Vicenza, che anno era? Con Berlusconi, 2006. Berlusconi fece un recupero fenomenale, quello della sciatica, l'antipatia, l'arroganza di alcuni imprenditori sui colleghi fu un viatico. Mi ricordo quella mattina il giorno dopo eravamo via dalla scuola, fa confini, c'era ancora l'Alleanza Nazionale che disse ma che cosa, c'era ancora terribile. Sì, c'era ancora l'Alleanza Nazionale, finisce ancora l'Alleanza Nazionale, non c'è più. Eravamo lì a commentare e Fini disse ma che arrogante Berlusconi, vi ricordate Vicenza? E lì cominciò una rimonta elettorale eccezionale di Berlusconi, che di fatto vanificò la vittoria di Prodi, che durò poco. Sì. Quindi Della Valle era quello che mi pare che era dall'altra parte, no? Che sì, fece rigore a Berlusconi. Diciamo che insomma è uno che è lui che è polemico. Io mi sono limitato a una battuta che non voglio considerare male. Siete quasi falliti, rischioso comprare i biglietti venduti da Della Valle e Montezemolo. Ma ha letto l'articolo di Mani e gli altri articoli sui giornali di però, questi giorni. Sì, quando un'azienda è costretta a comprare una pagina sui giornali a pagamento per rassicurare i propri utenti, il pubblico, pur essendo Della Valle editore di importanti giornali, sì, no? Ma se, mi pare che sia uno che sia socio. Ma di se lei tutto, dice di che tutti, è rischioso comprare i biglietti, fa anche un'operazione sul mercato che è falsata. Io non faccio un'operazione sul mercato. Lei è vicepresidente del Senato. Ma se leva la stazione, ha visto che ci sono anche quelli che ti levano i soldi e ti impongono una specie di mancia per fare il biglietto alle macchinette. Ma potrebbe essere quello il pericolo. E potrebbe essere quello il pericolo. Cioè, comunque, cioè, come no, il pericolo sto, quello? Dicendo, sto facendo una battuta. Cioè, pericolo, qual è? Cioè, Della Valle è un rom. No, se leva la stazione, ci sono i rom che la molestano. Della Valle non c'entra. Potrebbe essere molestato. Gli auguro di no, perché è talmente bello con quei capelli, con la pettinatura. Io sono anche da questo punto di vista in soggezione, perché non ho una pettinatura così bella. Però Della Valle, quando lei ha scritto presto chiuderete, perché poi Gaspari non chiuderà, andrà bene. I cittadini italiani devono sapere bene da chi siamo politicamente guidati. Il senatore Della Valle, uomo politico buono per tutte le stagioni, mantenuto da noi italiani per decenni con stipendi principeschi. Ma io non sono ricco come lui, insomma. Lui dice che se ne guadagna con le imprese, auguri. Sì. Guardi, io non ho mai avuto grandi rapporti con Della Valle. Una sola volta mi ha telefonato anni fa, con tono anche un po' arrogante, perché in una trasmissione televisiva avevo detto che molti imprenditori italiani, e probabilmente mi ero riferito anche a lui, producevano anche fuori dall'Italia i loro prodotti. Lui si telefonò, molto puntiglioso, molto polemico, dirmi che non era vero, che lui non produce all'estero, produce tutto in Italia. Io non lo so, questo può darsi che sia anche no, produce anche all'estero, produce anche all'estero. No, stia attento che le telefona domani. No, la maggior parte della produzione è tutta in Italia, di Della Valle. Sì, so. Però produce anche all'estero. Non solo, è uno di quegli imprenditori che ha fatto utili e ha dato più soldi ai suoi lavoratori, peraltro. Poi avrà fatto bene. Adesso però speriamo che debba licenziare 300 giovani assunti in questa società ferroviaria, perché ho letto sui giornali che ci sono tutti questi debiti e questa passività. Vabbè, non possiamo tollerare come italiani che il mondo politico si comporti in questo modo irresponsabile, arrogante nei confronti dei cittadini, eccetera. Conoscono l'umiltà di Della Valle, difatti, che è nota, anche Berlusconi l'ha sperimentato. Si deve dimettere o deve essere cacciato da chi ha l'autorità per farlo? Cacciamo Gasparri, dice Della Valle. Adesso vediamo, ne discuteremo in tribunale, perché ci sono. Vabbè, che lei vuole controquerelare? Vuole controquerelare? Già fatto con molti atti. Ha querelato Della Valle perché cosa? Per tutto il linguaggio, l'atteggiamento. E che ha detto? Anche, guardi, ha detto che la devono cacciare, non è che ha detto. È un atto di intimidazione. Ma che è intimidazione? Gasparri. Dai, su. Quale sarebbe il reato? Quale sarebbe il reato? Il reato sono delle minacce. Ma quale minacce? Ha espresso un parere che magari in molti pensano. È una cosa indegna la sua trasmissione. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Abbiamo saputo da Maurizio Gasparri che a sua volta querela Della Valle, a cui ha detto che falliranno. Faremo una cosa. Io propongo che all'Expo, siccome non espongono i Bronzi di Riace, espongano Della Valle, che è molto più bello. Scusi, vado lì e applaudo. Ma quello mica vivo, scusi, ma che scherzo. Ah, esposto vivo. Il modello italiano è più bello, è più c'è simbolo dell'Italia, dice simbolo. È simpatico. Bello, non è arrogante per niente, non ha mai polemizzato con nessuno, quindi andremo là, lo guarderemo, lo ammireremo. Al posto di Bronzi. E andrò a vederlo prendendo Italo, se non mi buttano giù dal treno, potrebbe che ti fa cacciare. Ma lei l'ha preso qualche volta Italo? Italo una volta. volta mi è capitato. Ma com'è? Com'è sto? No, bello, bello. Cioè, il problema sono le banche. Cioè, della Valle non si deve preoccupare di Castagni, si deve preoccupare delle banche alle quali deve dare 781 milioni lui e i suoi soci col treno. Ma non è strano Castagni, che una compagnia nata da poco sia già in difficoltà così? Forse ha scelto male i manager, ha fatto male i conti. Devo dire, non lo so. Io per Rigone, che è l'amministratore, credo che alla Rizzoli ancora lo cerchino. Per Rigone era stato anche alla Sipra, mi pare, precedentemente, non aveva fatto grandissime cose. Ce lo cercano per impiccarlo, dice le dipendenti. No, no, ma come sono i bilanci della Rizzoli, Corriere della Sera? Non litighiamo pure. Beh, però scusa, diciamo, Gasparri, ma spesso quando un imprenditore avvia un'azienda... Io sono per Parenzo al posto di Perricone, perché figurati, almeno sarebbe simpatico. Con beh, quello sì, però scusami, no, diciamo Gasparri, che il manager fu sostituito alla Rizzoli perché il gruppo RCS aveva un bilancio assolutamente negativo. Sì, non mi pare un'operazione in... Ma è normale che quando un'azienda, acquisti, quando parte, ha dei debiti. Diciamo, sì, insomma, sì, quindi sì, una società appena nata ha 781 milioni. È normale. Speriamo che recuperi. No, non è normale, non è normale. Ma è normale quando tu fai una startup, fai un investimento, no? Dai, non no? Dire che è ma noi vogliamo che la startup abbia successo. Ma lei lo dice ironicamente. Lei dice ironicamente. No, lo dico seriamente. Se crolla della Valle, lei è contento, stappa lo champagne. Perché ci sono i 1000 dipendenti che quelli invece sperano di lavorare. Della Valle, i soldi ce l'ha, in qualche modo se la cava. Comunque renderemo omaggio a Della Valle, che è il più bello, il più bravo di tutti, va bene così. E mi prenderò Italo per andarlo a vedere esposto all'Expo e mi metterò una parrucca tipo Della Valle, non so se devo cercare. Secondo me su Italo lei non la fanno entrare. A Italo non mi fanno entrare? No, secondo me. E mi travesto, mi metto la parrucca da Della Valle, c'era uno che mi imitava anni fa, chi è che lo faceva? Crozza forse. Sì, forse lo stesso Crozza, sì. Forse no, lo stesso Crozza. E quindi così non mi riconoscono, anzi diranno, guardate, se Della Valle vi porteranno bibite, caffè, giornali, tutto. Senta, ma che succede a Venezia al coso, al festival? Che festival è diventato? Perché abbiamo avuto la Guzzanti, Germano col pugno, Maresco contro Berlusconi, la Guzzanti, sì. Adesso aspettano, chi manca? Mancano soltanto Pol Pot, Fidel Castro. Beh, e Pol Pot mi pare eccessivo. Cronico è morto, temo, però è diventato il festival, cioè... Sono sempre state così queste cose, voglio dire, alla fine sa, poi i film. Oggi ho avuto un'altra discussione su Twitter con una persona qualunque che non conosco. Ma perché lei si arrabbia così su Twitter con le persone qualunque? No, con alcuni discuto pacificamente. Oggi abbiamo avuto una discussione pacifica. Ma che pacifico? Ogni tanto lei dice... uno sul film di Maresco. Io dico, vediamo quanto incasseranno al botteghino questi film. Di solito poco, di solito incassano poco. Richiamatemi tra qualche mese e vediamo quanto incassano i film anti-berlusconiani. Comunque io mi chiedo sempre, ma senza Berlusconi questi che fanno? C'è la Guzzanti, dice, senza Berlusconi. Ma tutti questi, ma tanti sono. Quindi Berlusconi è un datore di lavoro che non alimenta solo quelli che lavorano nelle società di famiglia, ma tutti ma Guzzanti, altri. Maresco, tutti. Eccetera, eccetera. Esistono programmi televisivi che format ormai senza non più, Berlusconi non sarebbero nati. Ormai non più. Ma di fatti sono un po' in crisi per questo, ma adesso che Berlusconi sta recuperando. Ma ha sentito la Guzzanti terreno, che ha detto però Berlusconi è dentro Cosa Nostra e non si può uscire da Cosa Nostra, è una cosa... Ma la Guzzanti ha detto tante cose, per quanto è incassato quel film che fece sulla Ragosta? Molto poco, mi sembra. Poco. Capito, quindi non la vedo, ma insomma mi pare che sia un po' in difficoltà anche lei, cioè sono un po', come dire, si ripetono. Ma e è poi un artista, lei, scusami. Poi la Guzzanti, che fa la proletaria di sinistra, si ricorda che investì soldi con il Madoff dei Parioli, che pure persi, cioè non solo un sacco di soldi, ma li investiva con personaggi poco affidabili. Ma che ne sapeva, scusa Gaspar, ma perché fai una, perché deve fare una scivolata dietro l'altra? Che ne sapeva la Guzzanti? Vabbè, se ti arriva un voglio dire, ma scusa, è stata fregata, è parte lesa, semmai, scusami, la Madonna di sinistra, ed è ma che c'entra? Ma perché uno di sinistra non può investire i soldi? No, ma guarda che veramente questa è una scempiente, investiti male, quello ricorda, è una questa sciocchezza qua. Ma che gliel'ho detto in faccia una sera a una trasmissione, quella di Formigli, e lei stava a occupare con i giovani non so quale teatro a Roma, il Valle, e però lei faceva no un altro quartiere a San Lorenzo, era un'altra cosa, c'hanno cazzo da fare questi occupati, e quindi gli ho detto tu stai lì che fai l'occupante, però agli occupanti che hanno dei poveri ragazzi senza un quattrino, lei per una che aveva i soldi da investire male potrebbe prestarli a Della Valle. Senti, ma non ho capito una cosa, ma ti ha colpito la Littizzetto che ha dato solo 100 euro per la... Sì, ma poi no, no, mi ha colpito la spiegazione, perché lei ha detto che pensava che bisognava dare 100 euro, ha fatto un'intervista il giorno dopo che era catastrofica, perché io pensavo fosse 100 euro. Comunque questa vicenda dell'acqua che possiamo criticato ha prodotto, almeno in America, non so in Italia quanto, però scuola, lì Tizietti ha detto giustamente, io la beneficenza la faccio in un altro modo, che non lo, non lo fa, può darsi che la fa in un altro modo, però insomma ha fatto male a dire 100 euro. Tutti gli altri, pensi quanto ha dato secondo voi? Chi, Renzi? Non si sa. Boh, non si sa, non boh. Si sa, non si sa. Alla fine vedrà che si scoprirà che quello che ha dato di più è Berlusconi, che non si è tirato l'acqua in testa, ma che di generosità ne ha avuto sempre tanto. Ah, quello che fa più, vabbè, quello è ricco, fa beneficenza, beh, certo. Ma sa quanti ricchi non la fanno. Ma come andrà Giannini a Ballarò? Giannini a Ballarò? Qua, che le devo dire? E raccoglie un'eredità pesante, parte in salita. Poi chi lo sa, però non ha mai guidato, ha fatto sempre l'ottica. Ma lei l'avrebbe preso, no? Io avrei preso una risorsa interna della Rai, c'hanno tanta riguardo. Oggi hanno cacciato pure l'amico suo, là, come si chiama? Mazza. Mauro Mazza, sì. Tolto, ma quelli che fa causa la vince, come l'altra volta. Perché Mazza fu tolto da Rai. Sì, però ho capito, però non si può protestare sempre perché uno viene rimosso da direttore. Un'azienda ha pure il diritto di scegliere. Ma no, ma guardi, in questo caso c'è poco da scherzare, perché Mazza fu ingiustamente rimosso. Sì, il giudice gli diede ragione e la Rai lo dovette ricollocare allo sport. Quindi era una collocazione dovuta a una sentenza. Ho capito, però perché sempre adesso sti tribunali? Adesso gli farà un'altra causa e pagherà un sacco di soldi, o poi dipende dal giudice, non è che i giudici vanno bene solo quando se la prendono con noi, no? Vabbè. Bene. No, pure certo. Quando danno ragione a Mazza. Ciao, ciao, presto. Ciao. Saluti. Devo partire, c'ho il treno che mi ciao. Aspetta. Per certo. Dove? Che non mi Italo, riconosca. Italo, Italo, sta Italo. Per prendere Italo. Italo, ciao. Italo, Livorno. Sì, buonasera. Ciao, dimmi. Senti, no, sono stato assente qualche minuto dall'ascolto e non so se già sono intervenuto sull'argomento dell'affermazione sua di prima in base a Marò. Che cosa? No, se non è intervenuto nessuno, appunto. Allora, ma dica quello che vuole, di quello che ti pare, Fabio. Ancora cosa, se non è intervenuto nessuno, dimmi. Che c'è? Ha detto una grande cacciata, no? Perché tante si possono dire tutte, le puoi dire anche te. Allora, ma scusa, ma certo, io non dico tante di strozzate, figuriamo. Non dico qual è la cacciata che hai detto. Qual è? Quella dei 150.000 euro ai familiari? Guadagni te, siccome te puoi spendere 150.000 euro l'anno, capito? Allora io ammazzo uno di famiglia tua, poi ti do 10 milioni di euro. E te sei a posto perché sei guarda, io non so, guarda ma io... che cazzo dici? Fabio, stai tranquillo, io ho detto una cosa molto... Ma sono che cosa? Io ho detto sempre... merda, e basta, capito? Vabbè, ma va benissimo anche questo, io ti dico solo una cosa, Fabio, ti dico una cosa. Io ho detto semplicemente questo, ho detto, abbiamo dato, senza che siano accertate ragioni e torti, abbiamo dato 150.000 euro a ciascuna di queste famiglie di pescatori indiani, va bene? Questo è un fatto indipendente. Questi sono a posto per le prossime generazioni. Ma che c'entra? Ma ha ragione l'ascoltatore, ma la perdita della vita umana non ha, è chiaro che non ha un prezzo. Ma questo è chiaro. Ma come che vuoi che sia? Ma questo è normale, questo lo pesco. Ascolta, oh. È mezz'ora e sono a aspettare, ascoltami bene. Cioè, il fatto esula totalmente dalla faccenda. A parte che non esula per niente, non esula per niente, perché è chiaro che l'abbiamo fatto per evitare le cause civili, tant'è che non si sono costituiti parte civili, per cui è tutto collegato. Ma questo non doveva. No, ma scusa, scusa un attimo. No, io ti vorrei dire che non è un discorso di causa civile, qui io la vedo ancora diversa, casomai, perché è una cosa che non è come un italiano che è andato là, un turista, e ha fatto un reato per cui viene arrestato e viene perseguito. In India certo. Succede qualsiasi cosa, le bambine vengono violentate, le bambine gli 8 anni, sì. Ma che cioè, il senso della vita o della morte è molto diverso, cioè la perdita di una persona è un senso molto diverso, ma rispetto a quello vero. Che abbiamo noi. Sì, ma te non puoi dire che ci dà 150.000 euro e sono a posto per generazioni. Certo, ma è così, la realtà è questa. La realtà è questa. La realtà, ma la realtà è che questi sono, questi sono a posto, questi sono a posto per generazioni, non hanno mai visto in vita loro questi soldi qua. Saranno a posto perso, per le hanno perso dei 4, parenti, dei generazioni. Padri, delle cose comunque. Vabbè, allora ci sono a discorso, allora, un figliolo tuo vale 10 milioni di euro. Ma non è questo, ma intanto che qualche volta la morte viene anche monetizzata, anche qui la morte viene monetizzata. Non è che viene è un indennizzo, ma non cosa c'entra? No, tutti la monetizzano. Non sto dicendo che la monetizzo io, ho detto che viene sempre monetizzato. Sì, ma non si può dire tanto hanno avuto i soldi, perché non vuol dire niente. Certo, quello gli era dovuto, ma scusami. Ma che gli era dovuto? Non gli era dovuto innanzitutto, perché è stato un atto di generosità nostro, ma non solo un atto di generosità. Sì, per evitare non toglie le cause, che qui i Marò devono tornare in Italia. Io non ho detto che devono tornare per questo. Ma quello è un altro discorso. Appunto. Ho detto che gli unici due... Allora, chi ci ha guadagnato dal punto di vista dei soldi in questa vicenda sono gli avvocati. Gli avvocati, d'accordo. Gli avvocati 5 milioni di dollari. E le famiglie. E le famiglie. Sì, è vero, gli avvocati 5 milioni di dollari. Ma senza è normale, che, ovvio. Ma non è normale. Ma e si poi, devono occupare di questi di arbitrati 150, internazionali, e voi non puoi non pagarli. 150.000 euro, no, a parte che ci sono anche risultati da ottenere di solito gli avvocati. E poi 150.000 euro. Magari il loro compenso è anche legato a quello. 150.000 euro a famiglia, senza che sia dovuto, per una questione per evitare le cause, che a questi signori e queste famiglie indiane serviranno al di là del lutto per intere generazioni. Dunque, diciamo che alle famiglie sto dicendo, al di là del dolore della perdita, è andata alla grandissima da un certo punto di vista. Questa è la provocazione e qui la ribellione di Fabio, che dice tu sei un pazzo, un cinico, una testa ragione, di cazzo, Fabio. Perché dici cose di questo tipo, giusto Fabio? Giusto, bravo, ok. Ti abbraccio, ciao. Saggio, ti abbraccio. Massimo da Verona. Ho detto una cosa saggia, ho ricostruito quello che hai detto tu. Io resto dalla mia idea. Massimo da Verona. Sì, ciao, ciao ragazzi, buonasera. Ciao Massimo. Ascolta, niente, tanto va bene, ti ascolto sempre, sono un camionista. Sì. Volevo dirti che nel meraviglio che un uomo di mondo come te non sappia che nelle aree di servizio, sai che parlavate dei gay, della gente, gay, per modo di dire. La gente reale del servizio che viene a rompere i coglioni qua, è una storia vecchia ormai da 20-25 anni. No, 20-25 anni no, ma qualche anno. Ma te lo assicuro io, stai tranquillo. Vabbè, ma io non sento una storia vecchia o nuova, che mi frega? Ancora negli anni, nei primi anni 90 succedeva questa roba qua, ed è piuttosto una cosa che secca, hai capito? Comunque non ce l'ho assolutamente con i gay, anzi, sono a favore dell'adozione alla grande e combatterò sempre con voi. Comunque volevo dirti, purtroppo mi avete chiamato, sto lavorando, vi abbraccio perché vi seguo sempre, abbraccio forte Parenzo perché grazie, tutti lo tutelano e invece grazie. È un grande. E comunque volevo dirti, scordate la cuffia d'oro, perché la cuffia d'oro la vincerà lo so di 100%. Ma sì, la vinceranno loro, io sono miei amici, li abbraccio. Sono tuoi amici, giusto? Li abbraccio, no? Ma io ne ho vinte già parecchie, ne abbiamo vinte parecchie. No, no, ma lo so, dai, comunque continuate così, ok? Ciao amico, ciao. Io propongo che all'Expo, siccome non espongono i bronzi di Riace, espongano della Valle, che è molto più bello. Speciale Antonio Razzi. Personalmente io posso dire che noi andiamo tranquillamente, siamo usciti, siamo andati fuori, adesso è la settima volta che vai, sono 7 anni che ci va. Dal primo anno ad oggi ha cambiato come la notte e il giorno. Cioè, adesso è diventato molto più aperto, si può fotografare, aspettano i turisti. Questo sulla Corea del Nord, si può fotografare. Ma come si può fotografare? Ancora, sentiamo. Una cosa vera che ci è rimasto impressionato anche il mio amico Matteo Salvini. Sì, l'abbiamo visto. Allora, quando gli ha detto l'interprete lì che giravamo su un ospedale, e ha detto questo ospedale di 300 posti letti ci ha messo 8 mesi per costruire, per farlo. In Italia 8 mesi, manca un progetto e ti fanno passare. In Corea del Nord non toccano nessuno. No, questo paese di liberali questo puri. Questo ve lo dico io da amico. No, amico mio, questo non si può dire. Fanno sbarare dai cani. C'è la pena di morte. No, non se ne trova i cani, pare, non ci stanno. Se ne mangiano. Capito? Se ne mangiano. Se ne mangiano. Non lo so, forse se ne mangia i primi, però non c'è. La Corea, tu non puoi dire la pena di morte non c'è. Adesso. Ma in quanti paesi democratici al mondo c'è ancora la pena di morte? esempio l'America, in quanti stati sì, in ma America è una democrazia, la pena cazzo di democrazia, le metto sulla sedia elettrica, sulla camera a gas e quelli parlano di democrazia. Chi è più famoso, il Papa o tu in Corea? Beh, in Corea del Nord forse più io. Te lo dico da amico, senza Berlusconi quelli stanno ancora là, solo Berlusconi può liberare quei due poveri marò. Ma qui si fanno tutti chiacchiere, soporto l'uvento, ci vogliono i fatti. Ma scusa, consegnati tu, invece di andare in Corea del Nord, vai in India, appunto, legati davanti all'ambasciata, guarda, fai qualcosa. Ma guarda, a me se mi danno la missione che devo andare lì, ci penso io, so il modo come parlare con queste persone, perché col dialogo si risolve tutto, con la cattiveria non si fa niente. Aspettiamo con trepidazione la missione la missione di Antonio Razzi, del senatore Antonio Razzi, in India per risolvere la situazione. Allora, c'è un calabrese ai nostri microfoni, un calabrese. Bene. Che non sta male, ovviamente, perché si chiama Versace, il suo nome però è Santo, imprenditore, presidente della Versace, calabrese doc, come stai? Bene, bene, sto guardando la luna e il vulcano, sono al vulcano. Ma dove stai? Sto magnificamente. Vabbè, ma chi ti ammazza te? Vacanza, chi ti ammazza? Chi ragazzi, abbiamo casa vulcano e ci veniamo. Beh, abbiamo casa vulcano, una delle case. Quante case hai, Santo? No, io non ne ho molte, ragazzi. Questa qui è casa della Miami. Mia compagna. Ma Miami non c'è più, sapete che Miami dopo la tragedia l'abbiamo dismesso. Sì, ma ce l'avrai qualche casetta? Qualche casetta ce l'avrai? Sì, beh, ce l'ho qui, ce l'ho a Reggio Calabria, ce l'ho a Lazzaro, a Roma, a Milano. Beh, qualcuno ce l'ho. Sì, non, non è messa, ma non sei messo male. Ma no, ma è solo, no, assolutamente no. Ma figuriamo. Se tutti stessero come me saremmo a posto. Sì, a Vulcano, dai, sei in grazia di Dio, a Vulcano. Vulcano è una meraviglia. A vedere, il 4 settembre ancora sta in vacanza, spettacolare, dai. Cioè, chi ti ammazza? Sto lavorando da qui, guardate, ieri è uscita una pagina bellissima su Italia Oggi. Non esageriamo che stai lavorando da qui. È una parola grossa, dai, è una parola grossa. Però Santo, dimmi la verità, allora, noi stiamo facendo questa grande campagna, tu sei un calabrese molto attaccato alla tua terra, stiamo facendo questa campagna per portare i Bronzi di Ace in giro per l'Italia, in particolare all'Expo di Milano. Tu che sei calabrese, dimmi che sei dalla parte nostra, ti prego. Ma assolutamente, sono sempre stato favorevole al fatto che i Bronzi, se ci sono tutti gli accorgimenti tecnici, si può fare. Quello è chiaro. È chiaro, si spostino. Ero favorevole, mi ricordo un episodio quando Mario Resca era ancora direttore generale del Ministero dei Beni Culturali. Andammo insieme al sindaco che poi diventò presidente della regione Calabria . E anche il sindaco di allora Scopelliti era favorevolissimo a che tu sei favorevole al fatto di prendere questi Bronzi, portarli a Milano per l'Expo, giusto? Ma i Bronzi di Riace dovrebbero portare un sacco di, dovrebbero muoversi, visitare il mondo, girare e portare alla Calabria un sacco di ricchezze. E questi che si oppongono alla regione Calabria . Che sono miopi, non c'hanno cazzo. Ragazzi, diciamo che in Italia ognuno ha la sua opinione, però diciamo anche che il famoso discorso del NIMBY, no? Non è il mio cortile, ognuno in molti casi non viene fatto un'indagine o d'altro. Ricordiamoci che ci esistono la maggioranza silenziosa e la minoranza rumorosa. La minoranza, ecco, in molti casi i gruppi di minoranza, di netta minoranza, fanno tanto di quel rumore. Le Brigate Rosse erano un gruppo di estrema minoranza. Però Versace, diciamo anche che gli amministratori fino a oggi... Cioè tu stai dicendo che stai paragonando gli amministratori che si oppongono a questa cosa dei Bronzi alle Brigate Rosse. No, dicevo che le Brigate Rosse erano una minoranza. Appunto, dico. Però facevano un rumore enorme nel paese. No, non sbagliamo in questo. Però per dire che gli amministratori fino a oggi della Calabria hanno fatto un disastro, questo possiamo dirlo tranquillamente, cioè hanno usato i Bronzi malissimo. Ma a parte i Bronzi hanno usato tutto il denaro pubblico per la Calabria, per il Comune di Reggio, molto male. Perché io sono arrivato a dire, lo ripeto fin da anni e anni e anni, che le regioni, risulta agli atti del Parlamento, quando ero alla Camera, la XVI devono essere cancellate. In quanto associazioni criminali di stampo politico, su questo non ho dubbi e lo ripeterò. Eppure fino la Regione Calabria, in particolare la Regione Calabria. Regione, ma tutte le regioni, ma anche la Calabria. La Calabria, fra l'altro, ha avuto pessimi amministratori, molto peggio di altre regioni. Vabbè, ma vogliamo intervenire, caro Santo, anche con la forza? Perché sono questi questi bronzi non sono dei calabresi, non sono della regione Calabria, sono dello Stato italiano. Andiamoceli a prendere, polizia, carabinieri, esercito. Ma guarda, c'è un ministro dei beni culturali, dipende da lui. Vabbè, ma basta con queste cose. Si chiacchiera troppo, ci sono troppe procedure, troppi vincoli. Se questi continuano a dire di no e noi invece vogliamo esporre i bronzi, poi basta, perché non è che ci sono solo i bronzi da esporre, e vogliamo andarci a prendere i bronzi e portarli all'Expo di Milano, ce li andiamo a prendere con la polizia o no? Giustissimo. Beh, c'è anche l'esercito per questo, che ha poco da fare in Italia. Appunto, prendiamo l'esercito. Chi parla è stato ufficiale di cavalleria, però a quei tempi, quando ero ufficiale di cavalleria nel 71, c'era il patto di Varsavia, c'era il muro bravo, di Berlino. Quindi tu saresti in prima linea con l'esercito a prendere i bronzi, bravo. No, io bravo. Non vado in prima linea perché ormai sono fuori da lei, mi hanno messo nella riserva, però... Si va che è giovane e ha le forze per andarci, però gli do il mio assenso. Oh, benissimo, cioè è giusto che l'esercito, se questi si oppongono, che l'Italia e lo Stato mobiliti l'esercito, prenda sti bronzi con tutti gli accorgimenti tecnici del caso. D'altra parte, ragazzi, questi sono sopravvissuti a migliaia di anni, sopravviveranno anche al trasporto a Milano. Direi che i bronzi dovrebbero girare l'Italia, dovrebbero andare in tour, per ogni giornata dovrebbero arrivare milioni di euro al Museo di Reggio Calabria, centinaia di milioni, cioè fare una tariffa. No, i soldi, alta. Meglio dare pochi soldi lì, perché poi se li fottono, dai, per carità. Ma guarda, a proposito di fottersi i soldi nei musei, io volevo che voi, che siete bravissimi della Zanzara, dovreste prendere dei tecnici e valutare quanto è costato il MAX e quanto vale, secondo i tecnici seri, onesti e competenti, fare un'opera del genere. Lo stesso per il Museo di Reggio Calabria. Secondo me scoprireste che basterebbe la metà dei soldi per fare quelle opere. Telese, sono in diretta alla radio, scusami. Che vuole Telese? Aspetta che ti metto in diretta. Mettilo in diretta. Luca, ciao Luca. Aspetta. Saluta Cruciani, dai, che sei in diretta. Va, ti ho messo in viva voce, Luchino. Vai Giuseppe. Ma che, si sente male? Ma mettilo a me. Un parenzo di soldi, quindi. Ma come dice? Perché vuole più soldi per Matrix, non rompesse i coglioni, dai, su. Tu fatti cazzi. Che palle, questo vuole sempre i soldi dappertutto, dai. Saluta gli Versace, ti saluta caro Luca Santo Versace, che come noi vuole portare i bronzi a Milano, Sì, vabbè, non si sente niente. Vabbè, caro Santo, ti saluto. Ciao, a presto, ciao. Ciao a tutti, a presto. Ciao. Rachele da Milano, Rachele. Bel nome Rachele. Rachele. Buonasera. Dimmi cara, dimmi. Allora, io sono una tassista vera. Sì. E chiamo per Modena. Però ho già sentito che il signor Gege, ma è Vincenzo. Pure tu sei 6969, pure te. No. Che non sei? Sono 6969, però questa cosa, al di là adesso di tutti gli scherzi, ridiamoci sopra, quanto vuoi, io sono amica di tante prostitute, specialmente quelle di via Monterosa, quelle sotto i tuoi figli. Ecco, ma dato che sei amica di quelle di via Monterosa, cara Rachele, allora puoi dire a queste di via Monterosa che io le voglio invitare in studio per parlare? Sono timidissime. Ma invitale tutto, Monterosa 91, Monterosa 91, tutte le mignotte che sono su via Monterosa, devono raccontare le loro storie, la loro vita. Io mi fermo tante volte a sentire la loro vita e le loro storie. Ma ho capito, ma che timidissime, vengono qui, io sono amico di tutte le puttane di via Monterosa, voglio essere amico loro, non sono ostile, devono venire qui a raccontare le loro vite, a dire quanto guadagnano e quali sono i loro problemi, se hanno dei protettori, se hanno dei magnaccia. Noi vogliamo la legalizzazione di queste cose qui, non devono più stare in strada poi, oppure... Ma io l'ultima che ho sentito mi ha detto che era inquadrata come una persona che lavava le scale per poter avere la pensione, mi ha fatto molto bene, ti dirò. Beh, capito, ma poi anche sono anche mature queste qua, o sbaglio? No, quelle che stanno sotto via Tempesta sono giovani. Sì, quella via Tempesta sì, che è qua sotto, qua dietro, sì. Sono giovani. Sono giovani, vabbè, che ma ci volevi sono dire? Un po' di tutta l'età, dai. Non, ma che non... ci volevi dire, scusa Rachele? Allora, io volevo a parte dire che abbiamo dato una fotografia di via Monterosa dove è il Sole 24 Ore, di un posto circondato da puttane. Appunto, no, ma che è vero, se tu vieni alle 5 di pomeriggio è pieno di puttane qua sotto, ti giuro. Ma sono discrete, discrete, dai. No, ma allora io dico. Se vai, allora se vai nella discrete, zona di trans, dai. No, d'accordo. Sono belle vestite. D'accordo, Rachele, però discrete non direi, stanno proprio in mezzo alla strada, si vede chiaramente che sono delle prostitute, delle mignotte, ma va benissimo. Per me ormai è un fatto normale vedere di no. No, ma anche per me, ma io per carità, vuole farle entrare qui al Sole 24 ore in fila, uno per uno. Beh, così in fila. Scusa, vabbè, allora io, che volevi dirci? Non ho capito. Allora, che per... io voglio dire questo: la signora Morena. Morena, sì, abbiamo capito che è una truffatrice. Dai. Ecco, ha bisogno di fare la tassista per avere un po' di appeal, perché a quanto pare quello che fa di solito non gli rende molto. Ora c'è una l'altra faccia della medaglia, cioè? Ed entriamo in un discorso un attimino più serio. Ieri sera in macchina è salito uno e ha detto: se anche io facevo come la Morena. Vabbè, è questo. Ora, perché ha ascoltato la zanzara, ha ascoltato la zanzara, esatto. Dai, e ci ha creduto. Ora tu considera quante donne tassiste ci sono a Milano, sono quasi un migliaio, sì. E tu immagina quanta gente normale e mezza fuori di testa ti capita tu per tu in un taxi. Ecco, la cosa non è proprio carina. Io chiederei alla signorina Morena di smentire il fatto di essere tassista. Ma l'ha già fatto, l'abbiamo già fatto noi. Non c'è bisogno, ormai è chiaro che ha detto una stronzata. Noi però l'avevamo intuito, l'avevamo capito e abbiamo fatto in diretta, abbiamo chiamato in diretta quelli del 6969. Poi oggi ci ho chiamato. Potevi anche chiamare me, gli facevo due domande e la buttavamo fuori subito. Ti abbraccio, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Tutti i discorsi che fa Cruciani inizia dai soldi, dalla politica, ma va a finire tutta puttana alla fine. Attento al GDT, sai? Allora, Parenzo, chiariamo una cosa. Allora, ieri è intervenuto l'ascoltatore Mauro da Mantova. Mamma mia. Abitué della zanzara. Un cretino, un maledetto. Vabbè, l'hai già volgare. Detto, l'hai già detto. No, lo dico ancora. No, dillo, però fatti sentire, non è che stai là col microfono. È una cosa vergognosa. Ha offeso milioni di persone. Allora, Mauro da Mantova, io non ho nessuna preclusione per niente, sapete, sono molto aperto a tutto, al linguaggio. A differenza mia. A differenza tua, vabbè, vuoi sottolineare questa cosa, chi se ne frega, beh, sì. Me ne fotto totalmente dalle tue, dei tuoi distinguo. No, io ho detto, non ho detto niente di particolare, ho detto sono aperto a qualsiasi cosa, a qualsiasi tipo di linguaggio. Io già ritenevo quello esagerato già prima, lo ritenevo offensivo già prima. Di sì. Quello che ha fatto. Va bene, ieri. D'accordo, d'accordo, non stare sempre attento a precisare le cose. Invece tu precisare. Per distinguerti non c'è bisogno, certo. Dai, se stai qui, stai qui, se non ci vuoi stare. Capito, alle volte sono in assoluto totale dissenso rispetto alle cose. Dissenso, che c'è da stare in dissenso? Fai parte tu del circo, uguale. Cioè, ma io faccio parte del circo, ma non sono a quei livelli là. Ma livelli sì, ma non sei a livello di chi? Non ho capito, di chi? Non sei a livello di chi? Di questo qui che telefono. Ma non dico, ma chi ha detto che sei a livello di questo? E non l'avrei fatto neanche parlare io. Oh, qui non è che c'è una decisione, fai parlare o non fai parlare. Io questo dico. Lo ridico ancora, mi dispiace. Vabbè, d'accordo, di quello che ti pare. Vabbè. Va bene, di quello che ti pare. Infatti lo dico. È anche diventato contro lo spettacolo questo. Sempre qua. Stato. Non è spettacolo, quello è volgarità. In parte sì. Allora, ieri però si è arrivati a un punto, diciamo, di non ritorno per Mauro da Mantova. Poi, per carità, noi non mettiamo la museruola a nessuno. Però Mauro, che sei all'ascolto, hai cagato fuori dal vaso. Cioè, l'hai fatta fuori dal vasino, caro Mauro da Mantova. Abbiamo bippato chiaramente la parte, perché voglio farvi capire che si possono dire anche le peggio cose senza mettere in mezzo Dio, delle religioni. Io insomma, sono non contrario deve... a farlo riascoltare. Perché, sei contrario? Non ho capito. Perché è un tripudio di volgarità inutili che non aggiunge niente. Ma era una battaglia, su una cosa concreta. Era una volgarità e basta. Era una battaglia su una era cosa concreta. Erano pure volgarità. Stai tranquillo, era una quelle che fa Adinolfi sono battaglie. Quelle di Adinolfi, non quelle ma di ho questo capito. Volgare. È diverso. Tu sei snob. Non pensi sono che snob, la gente sono sia... educato. Sì, ma lascia perdere. Tu pensi che la gente. Io sono educato, non vabbè, sono snob. Ma chi ha detto che sei? Io sei... penso che si possono sostenere le peggio cose che non condivido, come fa Adinolfi, che sostiene delle cose. Ma che c'entra Adinolfi, dai, adesso ma questo non qua essere è un volgari. Ascoltatore. Quello è volgare. Ma è un ascoltatore, anche volgare, certo. Sosteneva una tesi. Non diciamo sosteneva così. Tesi, diceva volgarità. Diceva non che tesi. I bambini non questa si possono comprare al supermercato, questo lo ha detto. È ma una sì, tesi questa, sì o no? E basta, no? Le condiva queste cose con volgarità. Volgarità. Questo il passaggio incriminato è questo qua, eh. Il passaggio incriminato è questo, ovviamente l'abbiamo mondato. Oh, mandatemi in onda quello giusto, eh. Ascolta, ma come fai a fare figli con due donne? Non ha capito niente, ma come fai a fare figli? Me lo devi spiegare come fai a fare figli. Ma non ha capito niente, poveretto. Con due uomini li adottano. Ma vai a fare in culo, dai. Dai, ascolta, Cruciani, li adottano. Così vado a comprare al supermercato un figlio. Che cazzo dici, Cruciani? Che cazzo lì? No, non puoi bestemmiare così, che dai, su. Che cazzo lì? Andiamo al supermercato a prendere un ma figlio. Ma questo è scemo proprio, ma questo è pazzo, no, dai, ma chiudilo e mandalo a quel paese, dai. Questo che vuoi dire? Vado al supermercato, sì, sentami. Ma chiudilo, ma lei è un deficiente, ma come si permette? Ma pure bestemmiato, cretino che non è altro, ma chiudi tutto. Ma mandalo a quel paese e chiudi, ma non intervenga mai più, ma come si permette? Spera che la denuncino, guardi. Vabbè, insomma, più o meno è andata così, è andata così. Barnard, dove sei? Non c'è. Barnard, Barnard, Paolo! Buonasera. Ciao Paolo, Paolo, come stai? Tutto ciò che sta succedendo è agghiacciante, Cruciani. Ma che cosa è agghiacciante? Questa è partito subito dalla tangente. Lo sai assolutamente bene. È meglio ma di cos'è me. Agghiacciante? Scusami, Paolo. La politica economica del Kocsis, della Merkel, ovvero di Renzi, l'uomo l'uomo delle lenticchie, l'uomo del gioco delle tre carte, l'uomo dei 5 chili di crema e di limone davanti a Palazzo Chigi. La sua è una politica che soltanto un economista medievale con l'Alzheimer potrebbe avallare. No, okay? Però scusami, Paolo, adesso tu sei partito per la tangente, io ti ho chiamato giusto, già sei partito contro Renzi, ma insomma ha fatto questa no, i mille giorni, le riforme dell'Italia, eccetera, eccetera. Renzi fallirà con i suoi boati gastrici come un cretino qualsiasi. Lui è un pupazzo pompato. Vabbè. Questo non è più un economicidio, è un olocausto economico e generazionale. Ma non, però scusa, l'olocausto ancora non si vede, però non si vede. Tu stai predicando sull'olocausto da una vita, non si vede niente. Un manicomio criminale a piede libero. Se Renzi, stai attento, se Renzi conoscesse l'eurozona e la macroeconomia, capirebbe che la soluzione ai nostri problemi generati dai tecnocrati delle banche vampire europee non sta. Parenzo, taci. Sterco maleodorante diretto di un rinoceronte. Diversamente scemo. Com'è sterco maleodorante? Com'è che dici, Barnard? Scusa, non ho capito. Parenzo, sei un decorticato cerebrale, anello di congiunzione mancante tra l'uomo erectus e Peppa Pig, ok? Mi lasci parlare? Ok. Vabbè, comunque. Mi state sbecchettando e bre nel pollaio della microeconomia italiana come Renzi, ok? Vabbè, noi siamo dei poveri così, siamo degli operai dell'informazione, non siamo così intelligenti, non siamo delle menti illuminate. Non come... è una posizione invidiabile, Cruciani, lo sapete benissimo. Io sto parlando. Ma io sto benissimo, mi sento molto bene, francamente. Beato te, sono gli italiani che stanno malissimo. Poi l'hai visto col gelato in mano, Renzi, Paolo? Infatti, certo, abbiamo visto questi 5 kg di crema e di limone a Palazzo Chigi. Tutto ciò è antiparlamentare, anticostituzionale e antidemocratico. Ma come? Ma che c'entro i gelati con anticostituzionale e antidemocratico? Paolo, scusami. Ma dai, su, dai. Tacete, diversamente scemi, state portando l'Italia al delirio con la vostra trasmissione. Insomma, solo tu capisci, solo tu capisci di economia, no? Spiegami, solo tu capisci come va il mondo, perché sembra che solo tu capisci, sono tutti imbecilli, non hanno capito, nessuno ha capito niente, solo tu capisci qualcosa. Cruciani, taci, proprio tu che sei un tecnocrate della radio, pazzo criminale, servo del potere che genera disperazione, disgregazione e distruzione, sei agghiacciante, anche tu non fai che sbecchettare e brr con le tue pennucce nel pollaio di Confindustria. Non lo so, okay? non ho capito. Vabbè, comunque prima o poi ti mettono in galera te, prima o poi te carcerano. Ragazzi, tenetemi, fate in modo che io non passi da Radio 24, ok? Perché sennò che succede? Scusa, ma perché sennò che succede? Ma perché sennò che non succede? Non farmi dire altro a te e che al decotticato cerebrale acefalo di Parenzo. Vabbè. Va bene? Comunque. Okay? Okay. Siamo alle solite minacce, vai, siamo alle solite minacce. Ciao Paolo, ciao. Francesco, provincia di Foggia. Pronto? Vai. Pronto, oh, buonasera. E andiamo? Sì, sì, ho sentito la musica. Niente, io ascoltavo poc'anzi le sue affermazioni, dottor Cruciani, sui calabresi che rubano i soldi, è meglio non mandare lì i soldi dell'incasso dei Bronzi di Riace. Ecco, detto da uno che sta trasmettendo da una radio che si trova in Lombardia, proprio parlando di Expo, dei miliardi che sono fottuti lì in Lombardia, e vicino c'è il Veneto con i miliardi. Ma che c'entra dell'Expo? Questo, scusa? Ma che c'entra? Stiamo parlando di soldi pubblici, quindi avrei gradito da lei maggiore correttezza professionale. Ma che c'entra i soldi pubblici? Non ho capito bene questo collegamento. Allora, forse lei sta facendo più il coglione rispetto alle altre volte. Lei la deve smettere di offendere i calabresi, il popolo calabrese, a proposito del Bronzi. Io non sto offendendo nessuno. Glielo dico anche a Sgarbi, visto che con Sgarbi lì ci parla spesso. Allora, la gente, se vuole venire a vedere i Bronzi, viene in Calabria. Purtroppo bisogna fare questa cosa qua. Purtroppo allora, li dici, purtroppo allora, bisogna venire in Calabria a vedere i Bronzi. Allora, fai un'analisi. Se uno vuole vedere i Bronzi, a me non me ne fotte niente, non sono mai andato a vedere i Bronzi, e col cavolo che ci vado. Amico mio, li dici a tutti i governi che hanno governato questo cazzo di paese, di investire un po' di soldi in infrastrutture. Anche al sud invece di allora, questa è un'altra storia. È un'altra storia. Non si sente niente, Francesco. Stai fermo pure tu, perché altrimenti, se ti ci metti anche tu, è finita. Dove sei? Non si sentiva. Allora, Francesco, io voglio capire una cosa. Non ce l'ho con i calabresi. Bisogna, siccome c'è l'Expo, ci sarà l'Expo. I Bronzi devono essere presi e portati col treno in tutta Italia a far rivedere a tutta Italia. E poi a Milano per 2-3 mesi. Togliermi dalla Calabria, punto e basta. Posso? Molto semplice. Posso? Dimmi. Posso? Allora io dico, invece di regalare 207 miliardi di euro alle ferrovie dello Stato negli ultimi 20 c'entra? Anni, che non hanno fatto un cazzo, mi fa parlare, che non hanno fatto una cazzo di ferrovia che arrivi in Calabria e porti visitatori, invece di regalare 207 miliardi di euro, le ferrovie dello Stato hanno fatto le infrastrutture dal centro verso il nord, con i soldi di anche dei calabri. Allora parliamo di queste cose, invece di regalare 3 miliardi e mezzo di euro al Mose di Venezia, che dovevamo spendere 1,5, siamo arrivati a 10, invece di regalare... Beh, ma non c'entra nulla questo. No, non c'entra nulla, Parenzo, lei fa finta di non capire. Francesco, no, ma questo non c'entra con la Calabria. Ma allora non è che puoi fare sempre il testa di cazzo in continuazione. Ma guarda che non è che se rubano al nord, così, allora va bene così, che rubino al sud, mio, furbo. Amico mio, è così, non dire che vi dovete ribellare, ma vi dovete ribellare a chi vi ha governato finora. I coglioni come voi due, strada non se ne fa, perché voi due ogni sera parlate in questo modo, come ha fatto Cruciani prima, ha detto che non mandiamo i soldi in Calabria perché lì se li rubano, detto da un milanese, un lombardo, che mi sembra un po'. Non ho detto questo. Calma con mandare i soldi lì, bisogna vedere poi come vengono amministrati, che poi se li fottono. Non è che se sono fottuti pochi soldi, cioè allora, non è che di truffe in Calabria ce ne sono state, io so, anche in Lombardia. Ascoltami, se io metto. A paragone i 3 miliardi e mezzo di euro del Mose di Venezia, parliamo di 100, 200, 300, non lo so quanti scandali. Ma hai ragione, ma non è una consolazione. Ma allora, che vuol dire? No, allora, vabbè, Francesca, abbiamo capito. Allora, ciao, abbiamo capito, ho capito tutto. No, ma Cenzo, ti ho fatto parlare, che vuoi? Cruciani. Complimenti. Ma ti ho fatto parlare, che devo fare di più? Devo far stare 4 ore qua. Tu quando parli tutte le sere cerca di essere più corretto, perché sennò. Vabbè. Sennò a parte che non fai parlare, tutte le persone. Ma come no? T'ho fatto parlare per 2-3 minuti, che vuoi di più? Per poterti parlare ho dovuto fare diverse giornate di telefono. Ma non ti preoccupare, evidentemente ci sarà stato affollamento, ma non è che abbiamo. Non è che mettiamo una mordacchia, Ciao amico. Pierluigi, Palermo. Pronto, ciao Cruciani, ciao Palermo. Dimmi. Ciao. Niente, volevo dire sulla cagata che hai detto sugli indiani che si sono arricchiti, le famiglie. No, non ho detto che si sono arricchiti, detto che sono arricchiti, certo che l'ho detto, ho detto che le uniche persone che ci hanno guadagnato fino adesso da questa vicenda, guadagnato in denaro. Sì, certo, non ho detto che si sono arricchiti, ma le famiglie dei due pescatori indiani sono a posto per le prossime 10 generazioni. Ma sai qual è la tragedia? Sì. Non è che si sono arricchiti. Come mai se erano così interessati? Così interessati alla giustizia? Perché se erano così interessati alla giustizia non si sono costituiti comunque parte civile rinunciando ai soldi? Perché non l'hanno fatto? crociata, mettiamola così, perché rinunciando ai soldi, guarda che non gli stai togliendo qualcosa a cui hanno diritto. Dai, su. Questo è il problema. No, ma non dire gente, ma il discorso è questo. Dai. Cioè, voglio dire, ma no, ma mettiamola così, Giuseppe, mettiamola così. Tu c'hai una famiglia, tu c'hai dei parenti, ci avrai una madre, un padre, c'hai una figlia. Metti caso, ti tocca sfiga, ti va male, succede un danno, vieni investito da un ubriaco per strada. A tua figlia, a tua moglie, ai tuoi parenti, potranno darti 10 miliardi di euro, ma resteranno lo stesso incazzati. Certo. Perché non ti dà un cazzo, capisci? Non sono i soldi. Mm. Perché con i soldi ti ci compri la roba, non ci fai gli affetti, non ci sostituisci. Ma questo è banale, ma questo è normale, banale, che sia così. Ha ragione, è vero, ma non ho detto che ha torto, ho detto semplicemente io ma ho fatto un ragionamento. Non si può dire che si sono arricchiti. Oh, ragazzi, ma perché, ragazzi, perché dobbiamo, perché dobbiamo, perché dobbiamo essere ipocriti perché su questa cosa? Ma basta, non è una basta, ma non ha senso. È un'ipocrisia. Io ho detto semplicemente che le uniche due. È il cinismo che usi. Senti, come Pierluigi, mezzo per parlare di ipocrisia che non esiste. Vabbè, no. Allora, cioè, è questo. Pierluigi, è scusami cinismo, un attimo, le uniche persone che si sono arricchite fino adesso da questa vicenda, perché c'è qualcuno che arricchite. Si è arricchito. Gli avvocati hanno guadagnato perché allora, fanno gli sono avvocati. Di fatto è un fatto, sono gli avvocati che hanno guadagnato 5 milioni di dollari senza portare risultati, che secondo me gli avvocati dovrebbero essere pagati a risultati. Dunque ti diamo i soldi se questi marò vengono liberati. Vabbè, questo è un mio ragionamento. E va bene, benissimo. Che non hanno stipulato patti di guadagno. Esatto, esatto. Seconda cosa, gli altri che tecnicamente si sono arricchiti per generazioni. No, gli altri che tecnicamente sono stati ristorati. È un concetto. No, ma quella diverso. È un'altra cosa. Sono stati ristorati. Vabbè, arrivederci. Ciao. No, ma ho capito quello ragione, che dici tu. Ma ha ragione, ma è chiaro fine. Che tecnicamente alcuni saranno. Scusa. Ma a che serve sta polemica? Nulla, ma. Semplicemente a tirar fuori cinismo. Basta, no. Non serve appunto, niente. È questo il punto. Cazzo, ma sì, ma l'ha capito. Vabbè, fate gli ipocriti. Ma dire delle cose intelligenti, fate gli ipocriti. I pronipoti di questi qua. I pronipoti. Pierluigi, i pronipoti di questi qua se ne fotteranno di questi qua. Avranno. Sì. È così. Ma è un problema dei pronipoti? Intanto ci stanno i figli, i genitori, certo, i parenti. Sì, certo. Ma che dici? Va bene, d'accordo. Cagata, non ho detto una cagata, ho detto quello che penso. Ma colossale. Va bene, ragazzi, fate. Apposta per provocare. Ma continuate frega, a fare ma del buonismo sì, su questa cosa ma qua. Non è buonismo. Tant'è che questi qua hanno rinunciato alla causa civile. Hanno rinunciato, capito? Sono povera gente. Si chiama transazione. Esatto, bravo. Transazione sul denaro. Assolutamente, ma il denaro è un valore che ti do non benissimo, per premiarti, per farti arricchire, ma per toglierti, per darti qualcosa che ti ho tolto. Benissimo, benissimo. Denaro, hanno rinunciato è per il denaro, certo, diciamolo, hanno rinunciato per il denaro. No, hanno rinunciato per il denaro. Guarda, che io sono uno di quelli, Pierluigi, io sono uno di quelli che la pensa probabilmente come te. Come, che guarda, che io probabilmente la penso come te sulla vicenda, cioè che c'è troppo patriottismo su questa vicenda qua, capito? Probabilmente la penso come te. Dopodiché non sono così coglione, penso invece che questi qua hanno preso i soldi dello Stato italiano e sono a posto per tante generazioni, hanno fatto un colpo da questo punto di vista, hanno fatto un colpo. Ed è questo il discorso, io questo contesto. E vabbè, ci hanno guadagnato, oggettivamente qualcosa hanno guadagnato, qualcosa hanno guadagnato. Perdita, che è un concetto diverso. Va bene. Se tu sei una casa e io te la levo, io ti do i soldi che equivalgono a quella casa. Capisci? Vabbè, intanto hanno rinunciato alla causa civile. Intanto hanno rinunciato alla causa civile che poteva provocare dei problemi. Enormi. Che gli devi invece di 150.000, gliene devi 300.000, che sono una pisciatina per lo Stato italiano. Dai. E per questi sono un gran colpo. Appunto, ti sto dicendo. Dove siamo? Ho capito, per Luigi. Fabio da Milano. Pronto? Sì. Oh, ciao Giuseppe, scusami tanto, volevo soltanto riferire una mia idea sulla tematica dei bronzi di Riace. Pensavo a questo io. Domani va, non c'è tempo, sei troppo lento. Ti abbraccio. Ah, okay, a domani, ciao. Comunque volevo dirti, scordate la cuffia d'oro, perché la cuffia d'oro la vincerà lo so di 105. Tanto so che sono tuoi amici, giusto? No? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.